1, 2, 3, prova, ce n'è uno per una prova. Sì, avanti. Buonasera, sono Carabinieri di Asala. Oh, ciao, buonasera. Come mi ascolti? Bene, dove sei? A casa. Con che antenna sei? O sono io o sei tu che stai arrivando basso, o i problemi miei? Sono io che sto arrivando basso. Ecco perché. Ascolto, innescando la radio ti sembra che vada bene, che è una prova con un microfono che stavo cablando. Aspetta, che devo ascoltare adesso. Aspetta che mi sono dovuto allontanare, che c'era una telefonata, dimmi. Niente, sto provando palacchino adesso, con Giulia, 50-36, quindi mi ascolti fatto il segnale, adesso sono 5. Sì, no, perché il segnale, volevo sapere, pensavo che con quello da base, volevo sapere com'era la radio. 5-36. Vabbè, quindi sta andando bene, dai, allora glielo diamo. Avanti Binario 10. Ora Binario 10. Ora sei chiù? Brecco Binario 10. Avanti, calma il mare. Qui c'è caldo. È fatto bene, ha fatto in giro al mare. Il bagnetto ha fatto là. Hai fatto bene. E a che punto sei? Dove sei arrivata adesso? Ah, dalla 131 stai passando. Ah, e poi tagli lì, scende dalla 131 sulla destra. Te la fai prima sì. No, stavo spazzolando, non c'è nessun canale, infatti. Adesso ero qua seduto. Non c'è nessuno. Come mi copri con questa? Meglio? Ah no, perché sto usando l'altra radio. Il coso, l'ultimo che avevo preso. È il 7009 c'ho adesso. E non va nulla, dice, questo avevo fatto un bel po'. Mi sembra che me l'avevi consigliata tu, ti ricordi? C'ha anche i tassini sopra nel microfono. No, io lascio sempre l'originale, non cambio niente. Così l'ho preso e così lo lascio. C'ha tutto questo. Non lo devo giocare nulla. Già funziona, se te la sta bene e c'è la base che fa bene la massa, già esce bene. C'è in quel sito cinese, le stanno vendendo 2 euro a base magnetica, piccola mi. Allora sono buone, perché io ne avevo comprato una, poi l'ho data, tanto non la stavo usando. E funzionava benissimo. Ma già stai uscendo bene. Chiaro come è bella pulita, già stai arrivando bene anche se c'è il movimento. Già lo so, è bene, è logico, pulisci al bidate che bisogna, deve avere l'occhio burradare da rugambo, no, guida, stai attento, al limite quando arrivi ci sentiamo a casa, che non potresti neanche modulare guidando, e dove c'è i punti, una lì ero fermo, ho visto un guazzo, all'ultimo momento se ne è accorto che ero fermo, io ero col camion, ce l'ho visto, mi ha sorpassato perché non è riuscito a fermare, ci è passato con il rosso, ha oggi mai visto Antieno a un furgone che sta facendo da San Giovanni, un disperato, lo sapevi vedere, io mi ho fatto una risata, si è cagato sotto, perché lì in quel raccordo lì fin davanti, in quello spazio dove c'è il ristorante, si piazza sempre la polizia e pone il muro autovelo, oh, appena più avanti lì. No, era uno che doveva ascoltare, dai. Giulio non si è sentito, sarà in ginella a piedi, si c'è nel brecco. Hola a todos, escuchi Nord Sardegna Italia, adelante, adelante. Hola. No, si sentiva però, era basso. L'ho sentito un pochino e poi è sparito. Hola España, España, se va escuchando el nord, Sardegna, Italia, adelante, adelante, asiento amigos. Curru, ¿sabes el sombrero? Come adesso, grazie, dimmi. A vedere il sombrero ce l'avevi al mare. No, il sombrero no, l'ombrellone. Anche pure a moglie, uno solo che vesti, se rimane il vemmo. Picchia è. Ah, guarda, io sono stato un terzo del tempo al sole, un terzo del tempo in acqua e un terzo del tempo all'ombra. Perfetto. Poi, a seconda che ora sei sceso, quel sole brucia, Poi sta pronta, sta ruci. Alle due sono sceso. Sì, da l'ora lì, da quell'ora lì, si cucina il sole, quello non è abbronzato, quello è abbrustolirsi. No, ma io ero un po' al sole e un po' in acqua, un po' in acqua e un po' al sole, capito? Un po' all'ombra, alternato. Comunque è bella, l'acqua era pulita e calda, mi. Magari vai da biscio, mi sembra, di cantina gatta, col caldo che ha fatto, ieri e oggi. Ehi, allora dice che aspetta. Cazzo, freccia non ne pone nessuno, no? E loro sai che gli indiani sono in America. Dimmi tutto, viene Foro Torres. Sempre seduto qua. Ehi, comunque ha detto che dopomani è calmo il mare. Ma già è bello, là, se è appena mosso già non fa niente, anzi, se è mosso l'acqua gira di più e rimane un po' più fresca. Dipende, dai. Io devo provare delle maschere sub e mi serve il mare calmo calmo. Marco? Chi è? Gianni sono, cosa sei? In barra mobile. Eia, ciao lo profe, via la Paolo Torres, tornando a casa. Beneveda, beneveda. Aspetta, so sarebbe un pericaggio. Confermo, confermo. Ciao Gianni, ben sentito anche a te. Nella zona, lì c'è caldo, sì. Buonasera, buonasera, con chi è che ho il piacere di parlare? Stazione Graziano, detto Buffo, triste. Buonasera Graziano, Gianni da questa parte, zona centro storico, stazione. Buonasera, buonasera. Cacchio vai Bulugi. Ha fatto bene Marco, è stato saggio andarsi al mare. Già un gris, ma rimani in dentro casa, amore di gaggio. Ha fatto bene, sì, almeno si è rinfrescato. Benevenuta, benevenuta. Adesso come entri a Sassari inizia il delirio, allora quando arrivi comincia a intendere lo giambamento, caro pre, caro carori. Vabbè, adesso guidare con l'apparato dentro Sassari non è il massimo, No, io sono all'Imaverna. Oia, lo profetta. Benevenuta, benevenuta, hai fatto bene Marco, sottoscrivo ancora. Poi vediamo se riesco ad andare al Ghero un giorno bello, un po' meno caldo, dai. Scusate un attimo. Al Ghero già è bello, però non lo so ancora tutte quelle alghe che sono al Ghero. Non lo so Grazia, dovrei chiedere. Ultimamente anche l'ha fatta vedere la spiaggia di Alghero, che era di tuo alghe, ma alghe. Era più alghe che sabbia, sabbia non se ne vedia. Marco, col portatile sì. Sì, un portatile che ha il suo antennino con base magnetica, lo puoi avvitare o sopra l'apparato o sulla base magnetica. Ma quindi c'è l'antennino sulla capota? Sì, yeah. Kappa Roger, bene bene, dai. In barra mobile, ragazzi. Comunque sta uscendo bene, anche io col portatilino e con la base magnetica. Sì, sì, adesso vabbè, non ho guardato il segnale io, comunque la radio è buona, adesso non so dove ti trovi, comunque il segnale, adesso al prossimo passaggio lo guardo. Vedo la tua antenna, sono al cavalcavia. Ah, quindi stai facendo spionaggio. Mi stai bruciando lo stadio di ricezione, dai. Comunque qua arrivi pieno, 9 e oltre, arrivi proprio forte forte. Eia, mamma mia, c'è un caldo qua, stava così bene là. Eia, mi immagino. Quasi schiatta dal caldo. Poi c'ho praticamente, ho la finestra della camera rivolta al sorgere del sole, quindi praticamente qua il sole praticamente da quando sorge sino praticamente a tutta la mezza giornata è completamente esposta, quindi ti lascio immaginare la temperatura. Eia, è brutta così. Io sto sempre guardingo perché ho la parte in mano e ci dovrebbe. Fai bene, avanti Grazia. Eia, no, io sto bene, sono in cucina, ho la veranda aperta con la stella solare, tutte le finestre basiste aperte, anche gli scorrevoli, ecco le zanzariere, in camera da letto aperto, il salone aperto, tira l'aria, è un bombo, si sta bene, oggi è meglio di ieri. Bene meda. Ascolta Grazia, da che zona stai modulando, si può sapere? Il quartiere di giù, Santa Maria di Pisa. Il quartiere Rubio Lonfio. Bene meda, non è vero. Io anni fa, quando negli anni 90, ci ho lavorato lì con un cantiere del comune di Sassari per alcuni mesi, lì in Piazza dei Soli. Aggiungo un preso, ti parlo degli anni 90-91 mi pare, ero fatto alcuni mesi con un cantiere del comune, capito, di quelli a tempo determinato, e niente, ho fatto esperienza lì, vabbè, ma ho un sacco di amici sparsi un po' a Santa Maria di Pisa, un po' alla Terroce, quindi va bene così. Ma adesso qua la piazza l'hanno fatta tutta nuova, è cambiata, tutto pavimenti, giardinetti, tutto nuovo. È passato tanto tempo, io ti sto parlando del 90-91, quindi figurati, a voglia, no, meglio così, dai. Io mi sono quasi 40 anni, no? Adesso ultimamente hanno rinnovato tutta la pavimentazione, hanno fatto un parco giochi con lo cibo, l'altalene, ed è bellino, va. Bene Meda, sono contento, dai, perché quando ci stavo lavorando io, Baccari, dai, no, non voleva vista. Era una bucaria con tutte quelle fioriere, tutti brutti, insomma, era un po' trascurata. Noi stavamo facendo alcune riparazioni di marciapiedi, mi ricordo, ma per carità, comunque, cioè, praticamente stanno dando lo travaglio e non stanno dando lo materiale per fare lo travaglio, cioè, cioè, operai come noi che si portavano i ferri da casa, qua carità, guarda. Se ti racconto certe cose, cioè, viene da piangere, ragazzi. Però dipende anche dalla vista passatrice che ce l'ha preso quell'appalto, capito? Magari un comune l'ha dato l'appalto a quello dove stavate lavorando voi, o eravate proprio a conto di comune voi? No, grazie, era proprio un cantiere comunale, quindi c'era il geometra del comune, noi eravamo praticamente in quel momento stavamo lavorando per il comune di Sassari, quindi era, non c'era nessuna ditta esterna, praticamente sani riga di Givi, fatti ragazzi, dimmi, cioè praticamente volevano fare i lavori senza che ci fossero gli strumenti, poi vabbè abbiamo puntato i piedi, già ci siamo fatti valere, cioè non si poteva fare il lavoro richiesto senza gli utensili adatti, cioè allucinante. Un maestro che c'era lì, cazzo, va via la motocarrozzella, una linea rigata alla betoniera, a chi l'ugiometra di Rugomone voleva fare il rugaccio istruzzo con la bara. Già ci ho lavorato io in comune, però ho lavorato come autista tanti anni fa. E poi però me ne sono andato perché non mi piaceva starmene ferma a guidare solo. E sono andato via. Eia. No vabbè, noi quel cantiere lì erano tramite la chiamata dall'ufficio di collocamento, no? Cioè c'erano le assunzioni a tempo determinato per uno, due o tre mesi e niente, avevo ricevuto la chiamata e niente, mi era più fatto. Alcuni mica che bugarete di Dino in Busciacca, non è? Già lo so, già che ci ha lavorato anche mio nipote, così a fare marciapiedi come malo quale. Ho fatto la un po' di voce, la già avuto pure a Plastamona, lì, più avanti della rotonda, in quel pezzo lì stava facendo il marciapiedi. Uno bugiato, l'altro prendesi i rubani e l'altro mantenendo la bara. E me ne voce ma niente. vabbè, no, già noi già insomma già l'abbiamo fatto i lavori, quindi poi a parte insomma, ti ripeto, ce ne sarebbero di cose da raccontare, ma lasciamo perdere là. E ne avevo fatto altri sempre il comune fu prima come manutenzione del verde in città, quindi giravamo le repubbliche, decio spugliatore, motosega, insomma fa un po' credo di pulizia, 30 ricori nelle aree pubbliche, giardini, giardinetti e cose varie. Lì mi sono divertito di più, ma a fare maniare io non sono capace, quindi i ghibi non mi piace da assai. Già lo so, perché io molte volte secondo il servizio mi mettevano a me, andavo col furgone al giardino comunale a disposizione, dovevo rimanere lì, capito? Quando uscivano a portare qualche albero per dire in Viale San Francesco o lì alla piazzetta del comune, andavo pure io, non facevo niente, loro tagliavano l'erba, poi caricavano il furgone, io buttavo via tutto e poi ritornavo al giardino comunale e non facevo nulla. Eia, Marconi, dove sei adesso? Scusa, grazie. Marconi, dove sei? Andiamo. Eia, ok Marco, io mi devo assentare, 5-10 minuti, gami, a dopo se ci sei, ok? Andiamo, a da voi. Genio, mi copi, avanti. Sei basso, sei in mezzo al QRM, comunque riesco a appena capirti. Tutto bene, amico mio, tutto bene. Il sole ci sta scaldando parecchio, qua a Sassari il sole ci scalda parecchio. E com'è giù a PT? Eia, bene, anche se mi è difficile capirti. Ma sei ancora al lavoro? Non so se ti stai muovendo, però sto iniziando a perderti, amico mio, sto iniziando proprio a perderti. Ciao amico mio, un abbraccio forte, ok? Un abbraccio grande. Ti è piaciuto? Ecco, sto guardando adesso Marco, molto vintage, molto originale, dai. È vero. Ah, Luca? Dai, Marcolino. Eri al mare oggi? Eia. E in UE, io ero alla rotonda, lato sinistro. Alla marina di Sorso. Mi sta chiamando Eugenio ancora, prova tu già. Eugenio, sei in mezzo a QRM, non riesco a copiarti bene, non ti capisco, amico mio. Papa Rosmetro. Ok, saluto a tutta la ruota, Eugenio, un saluto a Marco, mi dice. Non lo senti tu, Marco, lì? È a filo, ai limiti della comprensibilità. Ciao, se mi ascolti, Eugenio, ben sentito. Ciao, ciao, ci sentiamo. Oh, va facendo bene il radio? Benissimo. Ah, ok, là. Tu mi ascolti bene, Gianni, sì? Ciao Luca, buonasera, benissimo, ottimo e abbondante. Va benissimo. Andava, là. Ma te una piccola già si fa valere, dai. Ma, perdonami la curiosità, ma non sei nel tuo QTH ufficiale? Negativo, la 25. Ah, ok, dove avevi problemi con l'antenna, giusto? Ehi, adesso tutto risolto, una e due di stazionarie, perfetta. Bene mela, sono contento, dai, almeno adesso anche da lì esce forte e chiaro. K. E intanto siamo tutti vicini, meno male, dai, chi più chi meno. Chiaro c'è farci due chiacchiere, poi a fare collegamenti da qua poco me ne frega. Lo so, immagino. Vabbè, l'importante è... Vabbè che poi in linea d'aria, bucia e tutto, in linea d'aria non è che siamo così lontani, anzi, insomma, relativamente siamo anche vicini, quindi. Ah, infatti, siamo vicinissimi, non vicini, in linea d'aria, va, signoria. E beh, Marco, te l'hai fatto almeno il bagno? Via. Un po' di sole, poi ammollo, un po' di sole, poi ammollo, poi stavo provando una maschera Cressy che era nuova però mai usata, no? L'avevo presa anni fa. Siccome entrava acqua la scorsa estate o quando è, due estati fa, poi ho scoperto che il telaietto composto di due parti, è bastato fare un click, c'era qualcosa che si era mollato appena, adesso è a tenuta d'acqua, va bene. Poi me ne sono rimasto un po' all'ombra, anche se no al sole mi cuocio troppo. Già sto prendendo colore, dai, piano piano. Le birrette fresche, buone. La buona, la Trilupoli, quella non filtrata. La buona veramente. Già è separata, poi fresca fresca, con quella borsa a frigo che c'è il motore abbiamo un po' io, no? Che l'ho attaccata prima. Per un mezz'ora, tre quarti d'ora. Poi l'ho caricata, ma sul ghiaccio e c'è già quella roba brecca brecca da voi. Io sempre acqua, acqua. Poi tanto meno in spiaggia alcolici, tanto meno ne bevo, mi, per quanto blandi. E poi io sono sofisticato, a me mi puoi dare la birra al limone, quella sì che è buona. E già andare là, mi assento se ci siete dopo, là. Quanto d'ora, 20 minuti mi assento. Se non rientro di te devi salutarti. Ehi a lui. Ehi a Gianni, quindi come avrei capito l'antennino telescopico che nelle foto hai visto chiuso si può avvitare sia sulla base magnetica o sia sullo stesso portatile. Sì, sì, sì, ho visto. Adesso lo sto guardando tramite PC, quindi tramite monitor sono riuscito a vedere alcuni dettagli. Sì, sì, va benissimo. No, la marca non mi è nuova, la marca la conosco già. Insomma, l'apparecchio è un po' insolito col tasto, col PTT lì al centro, in mezzo. E niente, insomma, è un po' particolare, dai, perché ha a disposizione di tutti i comandi, tutti a modo suo, dai, comunque è già carino, carino. Io, è americano, è degli anni prima metà anni 80. Allora, l'antenna, quando la apri, no, è telescopica, è lunga solo 80 cm, no? Ho detto, ma vabbè, come risuona non lo so. Invece, sotto la base magnetica c'è una pista in osame, a spirale, no? Per completare la lunghezza dell'antenna, cioè l'antennina 80, metti che quella piccola bobina in rame piatto serve a raggiungere almeno un ottavo d'onda, non credo che sia quarto d'onda, perché il rame è poco. Secondo me quella è un ottavo d'onda, quindi sul metro 20, 1,30 elettricamente raggiunge l'ottavo d'onda e funziona. Quindi sicuramente anche nel portatile, io non l'ho mai aperto, però all'interno ci deve essere una piccola bobinetta per raggiungere l'ottavo d'onda, dai, per risuonare. tanto sono sempre quelle le cose di risonanza, un ottavo, un quarto, mezz'onda, cinque ottavi, eccetera. Ho capito, dai, con una sorta di carica, diciamo, che praticamente c'è una sorta di carica nella base magnetica all'interno del baracchino, così è. Leia. Sì, perché se no un'antenna da 80 centimetri cosa sarebbe? Non risuonerebbe, cioè, non credo che sia un quarto d'onda, perché lì la pista in rame nella base è poca, proprio fatta a spirale, no? Una piatta, no? Proprio una pista di rame piatta, sicuramente è ottavo d'onda, quindi rende anche meno di un quarto d'onda, però quando arrivi già... Insomma, Gianni mi ha sentito anche alla rotonda, vabbè, Gianni è anche vicino, è proprio sul mare lui. Ehi, dammi 30 secondi, Marco. Ehi, fai che sto mangiando tanto. Eccomi, vabbè, te lo intendi. Io ho acceso, ti ho sentito al volo e sono entrato, insomma, poco fa, dai. Hai molto pompa. Sei molto cupo e molto barattolato, Antonio. Soprattutto il modulatore, il sistema, mi. Sì, c'è ancora caldo a Sassari, lì in confronto era un paradiso, all'ombra era un paradiso, in acqua un doppio paradiso. Va bene. Ciao Antonello, sei molto barattoloso, molto effetto scatolato, sembra che il microfono sia dentro il tubo di una grondaia. Sì, a uscire già dice, però faccio fatica a capire cosa dici. Ho capito, ne ho capito un pezzo, dai, comunque ho capito F10 se non sbaglio. E boh. Bene, avrei voluto l'acqua calma, dopodomani dovrebbe essere calmo il mare, proprio piatto. E forse se ho fortuna mi arriva la GoPro dei poveri, mi arriva venerdì. Vabbè, già ce ne sono di. Già ci sono anche quelle economiche, quelle stracobarate come si dice. Già si trovano adesso sul mercato. Anche spendendo relativamente poco. Adesso sono collato, ti va bene? Sì, ti piaccio. Adesso riesco a capirti, prima veramente faccio molta difficoltà. Adesso già va bene, va. Scusa, non ho fatto 7 adesso. Sei pimpante. Grazie, cara. Ah, porca miseria. Bene, sì, poi la GoPro io prima di tutto per le cagate che dovrò fare non spendo 300-400 euro, ce ne sono tante, anche 50 euro, 40 euro, tipo la Apeman A77 che ne hanno vendute già 1700 negli ultimi mesi. Naturalmente già, tu già lo saprai, il 4K non è reale, ma è interpolato, in realtà è 1080p, 60 fotogrammi, sì. C'è un finto 4K, ma d'altronde io il televisore ce l'ho full HD massimo, quindi di lì non si scappa. Una volta che tieni la risoluzione full HD normale, vanno bene. Ti danno una marea di accessori, la custodia subacquea. Poi ci sono anche accessori a parte di tutti i tipi, per una modica cifra. Tanto capirai, per due fesserie quella va bene, basta e avanza. Da Amazon. Tempo fa avevo visto una aspetta, come si chiama? Nilox, o un nome simile comunque. Una di quelle di fascia media, dai. Poi ci sono quelle barate, ci sono quelle di fascia media e poi andiamo sulle GoPro, sulle Sony, anche la Midland, usciva una telecamerina però sviluppata in orizzontale, marchiata Midland, la facevano, sì, era marchiata Midland, però no, che io mi ricordi non era 4K, sì, ma fondamentalmente non te ne fai nulla delle 4K, sì, loro dichiarano magari 4K, ma sono assolutamente eresie. Guarda, se una buona risoluzione è anche un 720 progressivo, cioè se la telecamera ha una buona ottica e registra bene, va bene anche un 1280x720, figurati. Sì, ma infatti anche se devi mettere roba su YouTube va più che bene, ce n'è d'avanzo. Poi usano il trucchetto anche, a parte il 4K che è interpolato, può darsi che il 1080p a 60 fotogrammi, qui lo dico, qui lo nego, quello va provato, sia un frame rate fasullo, cioè in realtà è un 30, ma ti ripeto, un fotogramma due volte per simulare il 60 fotogrammi al secondo, capito? Quello da provare comunque. Sì, per internet, per il web va bene quel tipo di frame rate, ma se devi fare altro devi fare un cinquantesimo, un venticinquesimo, oppure il 24 progressivo, dai. Ma questo fotogramma, questo 24p, perché non 30 e 24? Tu che sicuramente di video, caspita, ci ha lavorato una vita, mi è uscito alla spagnola, mi è uscito. No, vabbè, è questione proprio di, è questione di standard, no? Il 30 e 60 è molto legato all'NTSC. Il 50 e 25 è più legato al PAL, capito? Insomma, è legato più che altro agli standard, poi giustamente bisogna vedere anche il livello della macchina, della telecamera, della fotocamera, insomma, a che livelli stiamo parlando, sia di sensore, capito? Quindi 24p, vabbè, io ho la telecamera che ho io, che era uscita nel 2007-2008 credo, insomma quegli anni lì, dalla GVC, praticamente registra sia in SD che in HD, non in Full HD, registra in HD 1080x720, però posso scegliere sia con lo standard 50-25-50 fotogrammi, posso scegliere sia quello 60-30 e poi anche il 24p progressivo che simula l'effetto cinema, capito? Simula praticamente la scansione cinematografica. Ah, ho capito, non sapevo quello. Aiaia, te ne ho mandato una, questa è quella che sta infuriando. Poi è bello che ti danno il telecomandino wifi per comandare, per fare gli scatti senza farla tremare, no? Senza muovere l'immagine, oppure per attivare il video a distanza, oppure con l'applicazione puoi vedere sullo smartphone quello che vede la telecamerina, la videocamera, puoi avviare video, foto, scaricare video e foto sullo cellulare, un po' di roba, ero rimasto indietro mio già. La marca dovrebbe, quella che ti stavo dicendo prima, dovrebbe essere la Nilox, chiaramente come format è molto simile alla GoPro se non ricordo male. Come ti ho detto poco fa, dovrebbe essere nella fascia intermedia con un buon rapporto qualità prezzo. Adesso non so tu quale hai già adocchiato, quale hai già visto. Allora, io ho adocchiato e preso il secondo link, su WhatsApp, il secondo link, la Coau, che poi sono tutti uguali, mi ci mettono nomi di fantasia cinesi, poi è sempre quella, hanno le stesse funzioni, hanno lo stesso telecomando, cambiano la posizione dei tasti, capito? Non hanno inventato niente. Va bene. E adesso sono ho collegato il cellulare a come si dice al computer. Sì, Coau Action Cam HD 4K patapim patapà. Sì, stavo guardando. Ma 4K vi credo poco. Guarda, già si registra, te l'ho detto, si registra in HD normale, in 720 progressivo va benissimo. Eia, sì. Guarda, quella almeno in Full HD lo dovrebbe fare. Sai quali sono buone anche? Le Xiaomi, il marchio è YI, non so come si pronunci, I, tipo la e-Discovery, poi c'è il modello 4K che poi non è effettivo, mi costa 150 euro, alla fine tutti le hanno detto che è un 4K fasullo anche lì, quindi per spendere 150, tanto vale spenderne 40-50 e hai un Full HD puro. Certo, sì, ma ti ripeto, visto che è considerato l'uso che ne devi fare, cioè di figuriamoci del 4K, cioè nel senso, è giusto per attirare un po' come specchietta quella cosa lì, poi se registra, già si registra in HD, te l'ho detto, e già te lo baci pure, e va bene secondo me, per quello che, per l'uso che ne devi fare. Sì, infatti, poi ti danno un po' di accessori, ti danno la batteria doppia, cioè ti danno due batterie, non una, addirittura questa Coau ha anche il microfono esterno, cioè la presa e il microfonino esterno se la devi usare per commentare, sai, migliora molto l'audio rispetto al microfono interno, insomma tante cose ti danno, poi gli accessori non ne parliamo, te la puoi attaccare ovunque, te la puoi attaccare anche a io ne avevo comprata una ma qualche anno fa, è una cineseria di quelle stracobarato, insomma veramente l'avevo pagata, veramente un'eresia, cioè proprio veramente una stupidaggine, che adesso non ce l'ho qua, chissà dove l'ho messa, e praticamente c'erano tutti gli accessori possibili e immaginabili, c'era l'attacco a ventosa, l'attacco a manubrio, l'attacco a casco, c'era la cinghia elastica per poterla fissare sul casco, insomma praticamente la telecamerina era metà di un pacchetto di sigarette, se ti viri, il resto della scatola era praticamente occupata solo dagli accessori. Sì, ma quella, la definizione di quella era 720 progressivo, ma per i soldi che l'avevo pagata veramente me li baciavo pure. Sì, io ho iniziato con cose peggiori. Guarda, anni fa, pur di avere qualcosa che si immergesse, avevo preso quella della Oregon Scientific, quella lunga tipo cannocchialetto, era una cosa aberrante, mi pare 15 fotogrammi, arrivava fino a 30 ed era un 640x480, eppure era subacquea, cioè facevano schifo le riprese, ma qualcosa la riprendevi comunque. Adesso non esisterà più perché sarebbe una vergogna anche venderla. Sì, poi ho avuto una di quelle di Auchan, Select Line, però batterie introvabili, tutto introvabile. Cioè usa e getta sono, poi entrava un po' di acqua, dopo un po' è entrata umidità nella custodia impermeabile, tra virgolette, e quindi si è parzialmente rovinata. Invece lì trovi batterie di ricambio, poi gli attacchi sono gli stessi della GoPro, quindi ti puoi sbizzarrire come vuoi. L'attacco a ventosa è molto utile, quello lo prenderò per usarla tipo dash cam attaccata alla cinesigari con l'adattatore. E vabbè, un po' per tutto. Sai cosa mi dispiace Allora, quella che ho preso io, come l'altra, all'angolo di visuale 170 gradi, che tu ben saprai che è quasi un fisheye 180 gradi, lì ci avrà distorsione ai lati, no? Le curvature dell'immagine. Mentre quell'altra, la Appeman, che è uguale, aveva la possibilità, e lì insomma ci sono rimasto un po' male per aver scelto l'altra, ha la possibilità di regolare l'angolo di campo, ce lo puoi fare 170, 150, 110 oppure fino a 70 il più stretto, potevi regolare l'ampiezza dell'inquadratura. Quale sarebbe stata oro? Ma è un controllo, presumo che sia un controllo elettronico e non meccanico, perché sennò qua stiamo parlando di cifre che c'è, cioè, in uno spazio del genere un controllo meccanico mi pare un po' che è esagerato, quindi sarà più che altro un controllo elettronico dello zoom, dai. Sì, elettronico, sicuramente escluderà parti del sensore, le parti laterali, fino a stringere sempre di più, no? Vabbè, comunque qualcuno ha detto che poi queste curvature del grand'angolo le corregge in post-produzione. Tu sicuramente sai cos'è. Io ho detto, si può correggere addirittura la curvatura del fisheye, caspita. Solo che il computer mio è obsoleto, non ce la farebbe con quelle definizioni. Per gli smartphone ci sono programmini, ma sono più che altro fesserie per giuntare due video, per mettere la musichetta, cioè non è roba seria. Se devi lavorare con file grossi, perché insomma già un come si dice, un MPEG, vabbè, io ti parlo di MPEG, un MPEG girato, se deve essere progressivo inizia già a pesare, figurati se lo puoi far girare su un cellulare per fare il montaggio, quindi cioè, se devi fare cose lunghe e cose di un certo livello devi avere anche il computer adatto, capito? Eia. Comunque sì, se fa 1080p anche a 30, da tanto a me non mi interessa fare i rallenti, per quanto possa essere utile. Tanto guarda, lo smartphone più di Full HD di schermo non ha, Full HD Plus esattamente, nel TV quello di mamma è Full HD, addirittura il mio televisore è ancora un HD Ready, quindi cosa è? La definizione, cos'è un 720p l'HD Ready? Non mi ricordo. Sì, è un 1280x720, sì, è un 720 progressivo. Figurati, quindi anche a 720p di lusso, voglia, capirai, poi per le cagate che farò, scusate il termine. Antonello, ci sei ancora? Antonello è all'opera, mi sta acconciando il baracchino. Sì, il GoPro va bene per chi fa cose professionali, per chi li mette sui droni, chi si lancia col paracadute, overboard, tutta roba sport impegnativi, eh? Saranno materiali anche eccelsi sicuramente quelli. Vabbè, lì stiamo parlando di altra roba, di un livello di qualità superiore. Non sono certo io a dirtelo, insomma, che chiaramente più la qualità sale, più salgono i costi, e quindi di conseguenza, a seconda di quello che devi fare, poi uno si arrangia. Vabbè, io adesso sono un po' fuori dal discorso, insomma, non sono così aggiornato come lo potevo essere un tempo, quindi mi sono distaccato insomma da un po' e sono un po' fuori dal mondo riguardo ai sistemi, alle new entry, dai. Mil Muezzin genio. Buonasera. Il segnale è più che ottimo adesso, sicuramente sei più vicino. No, adesso sono a casa. Ah, paghissimo, comunque sì, buono, nel senso rispetto a prima è un abisso. E Alberto invece parlassi prima. Io già, Gianni, ero arrivato a fare, tanto per prova, quando avevo la Z250, no? Sul serbatoio, per prova, non avendo niente di meglio, e... aspetta, ci avevo messo un pezzo di... uno straccetto, tanto per fare un po' di spessore, ci avevo legato con le cinghie o col ragno, avevo legato la telecamera VHS, sai, quella Philips, le VHS a cassette grandi, legata sul serbatoio, tanto per prova, devo vedere le occhiatacce che mi hanno mandato. Un camera on board, vabbè, anche io ho fatto qualche prova, ci avevo messo una videotto, la Kawasaki, una videotto Sony, credo che fosse, una videotto o una Kaiotto, vabbè non mi lamento, una Palmare, e avevo fatto alcune riprese con la soggettiva, l'avevo messa sul serbatoio e si vedeva la soggettiva, il contagiri con il blocchetto d'accensione, e poi l'avevo messa anche dietro. Cazzo, guarda, poi chiaramente quando iniziava a filmare non si vedeva nulla, però cazzo, il suono stereo che c'aveva con la telecamera è imbattibile, cazzo, ogni azzocco. Ce lo credo. Ah, invece una volta c'era un mezzo motoraduno che però non era roba seria, era una cosa improvvisata, no? Praticamente eravamo sulla 131, io guidavo in moto e un amico riprendeva con la telecamera, no? C'avevo la marmitta Marvin, il 2 in 1, priva praticamente di qualsiasi silenziatore, lana di vetro, praticamente nella ripresa video poi si sentiva che il rumore del mio motore copriva il rumore di altre 100 moto. Immagino. Cosa mi stai facendo ricordare? Genio, vabbè, tu hai voglia di moto, ne hai... è buono un bel grossa, avanti! Genio! E già torna, dai. Sì, con lo scarico Marvin maledetto, me l'aveva fatto comprare il Pippo, comunque già era figo, lui faceva un rombo abbastanza cupo, no? Sembrava un motore Chevrolet V8, sai, quelle macchine tipo Plymouth Fury o Chevrolet. Meno male, comunque era da... infatti poi l'avevo ripristinato, avevo messo il silenziatore interno, avevo preso la cartuccia e lana di vetro, perché dava fastidio anche a me poi. Ma alla fine quando è troppo rumoroso ti fa sei... ammazzi il gabbo. Una volta... era un venerdì sera, era ancora in funzione, era il momento, insomma... credo che il Fritz Patrick fosse al suo apice, dai, o comunque nel momento dorato della sua storia. Ed era venerdì e aveva ancora il Kawasaki 750 colorato mimetico, e c'avevo praticamente, avevo il 4 in 1, era un 4 in 1 della Marvin, che praticamente che finiva, chi me l'ha venduto praticamente me l'ha dato, non me l'ha dato completo, praticamente il 4 in 1 finiva dove c'era l'imbuto, ok, dove c'era l'unione dei quattro collettori, c'era, e poi praticamente da lì in poi dovevo ripristinarlo, e alla fine con l'aiuto di Nicola, la buona anima di Mauro e Masa, avevamo riusciti praticamente a ricostruire quella parte lì, e come terminale, come pezzo finale, avevo comprato un tubo d'acciaio da Marceddu in acciaio inox, avevamo fatto praticamente, gli avevamo ricostruito il tappo, abbiamo recuperato un pezzo di canaforata, fatto tutto bello, preciso, insomma, era uscito un lavoro gagliardo, ci mancava solo la scritta Marvin sul fianco ed eravamo a posto. Una sera uscendo da Fitzpatrick praticamente mi hanno rubato lo specchietto, mi hanno tolto le pipette delle candele, mi hanno messo della carta straccia e praticamente mi hanno, non so come abbiamo fatto, sicuramente con qualche pinzetta o roba del genere, mi hanno smontato il tappo del terminale e mi hanno buttato tutto per terra. Vabbè, stacco così, poi proseguo dopo, dai. Già li trovi sempre gli stronzi, anche a scuola. Io andavo a scuola, quando andavo a scuola in moto, e ogni tanto trovavi pipette staccate. Poi poco furbi, no, hanno svitato le pipette delle candele e l'hanno buttata nel cassonetto a fianco. Io, come ho aperto il cassonetto, l'ho trovata lì, proprio in bella vista, l'ho presa e l'ho rimontata. Almeno buttacele in una località remota se proprio vuoi far del male. Vabbè, e sempre nei trupi, mi ho macchine e moto, sempre te le toccano, te le graffiano. Ui. No, scusate ragazzi, io devo andare via, che sono venuti a gettare a casa. Ci sentiamo, dai, a domani ragazzi, ciao. Un abbraccio Geni, un abbraccio, dai, alle prossime. Ok. Ciao Eugenio, alla prossima, dai, ci sentiamo, ciao, buona serata. Buon contratto, ci sentiamo, ciao ciao. Ti stavo dicendo, praticamente mi guardo un po' intorno, cerco di più o meno di capire, insomma, il potenziale smanettatore, insomma, sabotatore, cose varie. Abbastanza incazzato lì al buio, in mezzo a all'andirivieni di persone, mi sono sistemato la moto praticamente, non trovavo il bulloncino da 10 per bloccare il tappo del terminale, e quindi praticamente sono salito a Sassari con lo scarico libero. Ti puoi immaginare la moto mia con un tubo di scarico, adesso non mi ricordo quanto era il diametro, non c'ho neanche non ho il calibro a portata di mano. Ti posso dire, aspetta, fammi fare un'operazione qua, se mi viene bene. Stiamo parlando di, avevo un tubo, il terminale di scarico era, mi sembra che fosse intorno ai 21-22 cm di circonferenza, insomma era abbastanza grosso. Sono salito alla Sassari a scarico libero, sono arrivato al sottopassaggio di Santa Maria e come da prassi, da Super Caffone, ho scalato un paio di marce, sono entrato lì dentro, cazzo gli ho tirato questa seconda, sono sbucato la testa del semaforo e poi dopo ti dico il resto. E hai trovato la stradale. Alla testa della chiesa di Santa Maria ho trovato un carabiniere col mitra in mezzo alla strada. Allora ho sentito il ciocco, dice, cosa sono sedenti? Ui, ma storie hanno fatto. Cazzo, guarda, cioè, gli ho fatto il pelo, lui è rimasto fermo. Sono uscito in seconda, il cazzo è pogliato la marcia, gasatissimo. L'ho visto in mezzo alla strada, l'ho schivato. Poi, praticamente, figurati, erano ancora con l'Alfa 75. Ed era la macchina posteggiata sul piazzale della chiesa. Io mi sono fermato in prossimità della chiesa, ho messo il cavalletto e già immaginandomi lo scenario della mia moto sul carattere, ho iniziato a sfilarmi il casco. Mi stavo preparando psicologicamente al peggio. E invece no. Magari hanno chiesto cos'era successo. No, praticamente, vabbè, l'inizio, sai, no, moto bu, no, vabbè, la sera ho trovato due persone intelligenti, abbastanza comprensive, però, sai, all'inizio è sempre un po' così. Mi si è avvicinato il tipo che era in mezzo alla strada e mi fa, ma casa non ne hai, ma cos'è tutto questo casino? Con un accento barbaricino abbastanza pronunciato. E gli ho fatto, insomma, se gli dico cosa è successo, se gli dico la verità, sicuramente lui non ci crede. Vabbè, inizia a raccontarmi. E niente, gli ho detto davvero, che ero in quel posto lì, praticamente sono uscito, ho trovato la moto praticamente spostata, senza lo specchietto, addirittura poi gli ho fatto vedere i segni del morso senza lo specchietto sul manubrio, le candele, poi praticamente insomma, ho trovato qualcuno che si è divertito con la moto e dicevo, come avevo già previsto, si è messa a ridere, no? Mi ha fatto, sì sì, magari fosse la verità, no? Ho detto, guardi, comunque, sappia che è quello che realmente è successo, e niente, insomma, le cose sono andate così, infatti ho alzato la sella della moto, gli ho fatto vedere il terminale smontato, ho detto, guardi, questo l'ho trovato per terra, tra l'altro avevo le chiavi lì con gli attrezzi suoi, non ho trovato il bulloncino, se no l'avrei rimesso, è che non sapevo come fermare. Vabbè, chissà se ti guardi due risati, per dire, già mi bigli baruguro, capito? E niente, adesso proprio per stringere, mi guarda la moto e mi ha fatto, ma questa moto è o è un sommergibile? Perché l'ha vista, no? Detto, guardi, è un vecchio Kawasaki, un 750, no, Kawasaki non sono così brutti, no? Poi, vabbè, era meraviglia di baruguro, no? Poi si è avvicinato, gli ho fatto vedere tutte le modifiche. Vabbè, comunque, niente. No, poi mi ha detto, no, a parte gli scherzi, già è simpatica una motoretta, che è strano, visto che non ce n'è una moto in giro all'epoca. E mentre stavo ancora parlando con lui, mi chiama l'altro, mi chiama, sana, si avvicini qua. Ha detto, boh, adesso facciamo la frittacca. Me lo guardo, esita un attimino, sai quel silenzio che sembra che non finisca mai. E fa, guardi signor Sanna, allora, sono l'una e mezza, lui è meno 20, insomma, di notte, sarebbe anche ora di ritornare a casa, quindi poi la moto in quelle condizioni lì, in giro, non è che sia tanto regolamentare, quindi questi sono i documenti, mi raccomando. Buon rientro a casa e cerchi di risolvere il problema e arrivederci. Buonanotte, grazie. È andato, dai. Però no, non lo trovi mai il tipo che fa danno alla moto, hai notato? Te la trovi rovesciata, con pezzi rubati, però beccarlo sul momento mai. Mamma mia, che soddisfazione che sarebbe. Vabbè. Sì, perché anche se gli racconti la verità non ci credono. Potevo inventarmi, dice, qualsiasi altra cosa, ma... Eia. Caspita, era tardi anche. Comunque, vabbè, il fatto che sia, come che hanno detto, ora è di rientrare a casa, quelli non sono problemi che li riguardano. Io posso stare in giro anche tutta la notte, se mi aggrada. Certo, magari non con la moto rumorosa. Forse la battutina le fanno sempre. No, vabbè, gliel'ho detto io che stavo rientrando. Gli ho detto io che ero in quel locale e praticamente ero in direzione di casa, quello gliel'ho detto io, cioè che stavo rientrando. Gliel'ho proprio detto in maniera proprio esplicita che stavo rientrando a casa, anche perché l'indomani sarei dovuto andare al lavoro, quindi, voglio dire, non avevo nessuna intenzione di fare le ore troppo piccole, capito? Registrato. Eia già, sì, no, ma magari qualche apprezzamento lo fanno, come dire, no, quest'ora in giro, okay. Non ci sono limitazioni di orario, no, per stare in giro, tanto fanno le battutine gratuite, tanto per vedere come reagisci, no? Avanti su break, buonasera. Ciao Lupo Grigio, oggi stai arrivando molto molto meglio, le altre volte eri sotto il 9, oggi sei 9 più 15, una volta ti ho sentito bene, ero in macchina, ti ho sentito bene dalle parti di Viale Caprera, se non ricordo, il segnale era già molto migliore, quindi ti ascolto ottimamente, avanti, in compagnia di Gianni e di Marco. Buono, poi mi pare di ricordare che ho per importabile, giusto? Dunque, cosa può essere? Magnetica? Magnetica per caso, può essere la LC59? Ah, ok. Buono comunque. Gianni, tu come l'ascolti, Lupo Grigio? Buonasera, mi è sembrato di capire Nicola, se non sbaglio, Lupo Grigio. Buonasera, ben ascoltato. Sì, rispetto alle ultime volte che ci siamo sentiti, insomma, c'è stato un miglioramento sia di segnale, anche di conseguenza un po' della radio. Allora, buon proseguimento di serata, noi siamo qua per un po' ancora, vediamo che ore sono, forse Gianni deve andare a cenare, Bene o male, quando possiamo entriamo anche nei giorni, oggi, domani, quando capita. Tu già come si è messo a pappatoia? Io già risolto. Salutoni, lupo grigio, alle prossime, quando coincide. Io ho già risolto, io sono già a posto. No, volevo dirti un'altra cosa riguardo al racconto che ti ho fatto poco fa, però adesso mi sfugge. Comunque se mi viene in mente già te lo dico, dai. Eia. Allora invece nella 404, no? Avevamo sperimentato questo tubo di acciaio inox, diametro 4 centimetri, forse 5, adesso non so quanto sia, calzava sull'uscita dei collettori, no? Sul tubicino che esce dai collettori. Giustamente per non essere libero, per avere un po' di contropressione, era stato messo all'interno questa cosa a metà, diciamo, strozzava a metà questo tubo cilindrico di acciaio inox, in modo da avere un po' di contropressione, un minimo di contropressione. Però anche quello era rumorosetto, poi detto, poi a me in realtà le moto rumorose non sono piaciute, perché quando dovunque vai senti questo è una cosa allucinante, cioè alla fine poi avevo messo, vabbè, quelli erano esperimenti di gioventù, avevo messo il tromboncino originale, silenzioso, bello vattato, almeno potevo viaggiare senza esaurirmi. Ho capito, tu poc'anzi stai parlando di quel tubo, il compensatore, quello lì, di quello stai parlando? Presumo, guarda, il tubo era vuoto, questo tubo d'acciaio inox, no? Sottile anche era, cioè non era niente di largo, era abbastanza, sì, io penso 40 mm di diametro. Sì, praticamente me l'aveva costruito Pippo, aveva costruito questo semitubicino, no? Che prendeva metà della... e quindi era in prossimità dell'uscita e c'era una vite passante, vite con un bulloncino che impediva che lo sparasse fuori, ecco. Ho capito. Da come me l'hai descritto sembrava che fosse un compensatore. Se non mi ricordo male adesso, magari sto facendo confusione con la 500. Allora, la Honda aveva praticamente finiva col 4 in 1 se non sbaglio, però faceva 3 più 1 sì, lo scarico finale, c'erano i tre collettori che convergevano su uno, facevano, e poi c'era praticamente l'altro singolo che si arrivava sotto e da lì partiva il terminale finale, correggimi se sbaglio. La 500, la macchina non la conosco, no, di che stiamo parlando? Aspetta, io stavo parlando del 404, no? Quattro collettori che si uniscono e io ci ho messo un tubo dritto, cilindrico d'acciaio. Sì, era una strozzatura, a metà, a emisfera, diciamo, per capito, proprio metà era libera, l'uscita a metà non era libera. Non so prego come dirlo. Sto parlando sempre di moto. Sicuramente sto parlando di un'altra cosa più a monte. Sto parlando praticamente dei collettori di scarico. Volevo sapere se la tua moto, partendo dall'uscita dei cilindri, praticamente i cilindri come uscivano del tuo 4 in 1, facevano, cioè ce n'erano tre che erano, finivano in uno, poi c'era l'altro, il quarto, che finiva chiaramente singolo, e poi praticamente il 3 più 1 avveniva sotto la moto, confermi? Adesso già non me lo ricordo, cioè, alla fine comunque si univano tutti i cilindri, quello sì, è ovvio, fammi fare mente locale, porca miseria, a me sembravano tutti 4 in 1, non ricordo deviazioni strane, è che è passato tempo già, caspita, comunque in rete posso vedere collettori, scarico 400 for, vediamo cosa ne esce, la forma almeno. Guarda, mi ricordo che sia il 400 che anche il 500 avevano questa caratteristica, cioè che prima che tutti gli scarichi si unissero, praticamente era proprio una peculiarità di quel modello della Honda, c'era praticamente i tre collettori che scendevano e si univano verso un unico collettore, e poi c'era il quarto che rimaneva solitario, che si univa alla fine, si congiungeva agli altri tre solo alla fine, dove c'era l'imbuto grande. Questo per una questione di erogazione, di pulizia, insomma di carburazione del motore, mentre la mia originale usciva con gli scarichi laterali, aveva una marmita da una parte e una marmita dall'altra, e usciva con due cilindri che poi andavano ad unirsi in uno e andavano praticamente a finire sullo scarico sinistro, gli altri due destri sullo scarico destro, però le due unioni dei due cilindri, da due diventavano uno, venivano uniti sotto al motore da un tubo che collegava i due cilindri di destra con i due cilindri di sinistra, e quello si chiamava compensatore. No, mi pare di no, guarda, io ho trovato una foto che sembra realistica. Io ricordo una cosa del genere, ed è simmetrica, però caspita, questo è un pezzo nuovo, magari l'hanno fatto diverso, qua ti mando la foto e faccio prima, non ricordo tubi che si uniscono alla fine, no, basta, lo mando. Ok, no, ti ripeto, a livello di memoria storica mi ricordo che la Honda, i quattro in uno della Honda avevano questa caratteristica, cioè che praticamente tre scarichi si univano, l'altro rimaneva da solo, e poi si univano alla fine sotto la moto e uscivano di fianco, capito? Mi ricordo questa caratteristica. Caspita, adesso vedi, bisognerebbe vedere quello originale, perché questi sono tutti pezzi rifatti, sono tutti pezzi nuovi rifatti, magari modificati. Per esempio, qua ce n'è uno strano, allora il mio non era così, che ricordi non era così, questo è assurdo, io non ho mai visto una cosa del genere, adesso te la mando, guarda, questo è scuro, ma c'è due da una parte e due dall'altra e poi diventava uno, no, guarda, ti mando quello, non era così, te lo mando. Gappa. Mandato. Allora, non era così, questa è una cosa aliena che io non ho mai visto nella mia moto, cioè due collettori che diventano uno, cioè ogni due collettori si univano in uno e poi no, diverso dal mio, no, non era così. Secondo me, può essere che non fosse originale mi quello che avevo io di collettore. È probabile. Guarda, se trovo qualcosa sull'argomento, magari ti faccio vedere di cosa sto parlando. Comunque, mi ricordo che aveva questa caratteristica, quella moto lì, capito? Cioè, sia il 400 credo che anche il 500, perché la moto come la tua ce l'aveva anche un mio amico, aveva il 500 Four. E mi ricordo che aveva questa caratteristica qua, che praticamente aveva il 3P1, capito? E quindi mi era rimasto in mente, perché era una cosa inusuale da vedersi, capito? E via, adesso ogni qua, mamma mia, mi azzuffo in sti smartphone, no? Per chiudi. Comunque, hai visto quello strano? Due collettori diventano uno, e poi diventa, già hai visto, no? Mai visto sulla mia, no, mai. Aspetta, è lento, ci sta mettendo un po' a caricare, me l'ho collegato al PC. Sì, lo sto guardando adesso. Vediamo un po'. Sì, questo no, non è come quello che sto dicendo io. Non è così. E poi avranno fatto varianti, magari per ottimizzare le combustioni, No, il mio era il secondo. Cioè da 4-1, infatti mi ricordo questo è molto largo, no? Piatto, no? Almeno credo di ricordare, sì. Ecco, il secondo. Questo è nuovo, è cromato. resete un attimino che ho visto che mi ha mandato un'altra foto. Aspetta che la carichi. Ehi, ho già, ma tu hai problemi di linea lì? Cioè, cos'hai tu, wifi oppure scheda telefonica? No, sto usando il telefono come hotspot, però è lento, è molto lento. E che operatore è? Io sto usando, sai cosa? O Mobile, che sarebbe Vodafone. C'ha una... la velocità è limitata in 60 megabit al secondo, ma ce n'è a buttarne. Pensa che la mia ADSL è 8 mega, 60 mega, la voglia. No, io sono con la Wind, praticamente niente, infatti ecco, ti ricordi l'altra volta ne stavamo parlando? Sì, sono, aspetta che sto cercando di aprire la fotografia. L'immagine, sì, ho capito, quindi questo cromato che vedi in foto era come quello che avevi installato, giusto? Sì, io appena l'ho comprata c'era, aveva questa forma, l'altro no, non sapevo nemmeno che fosse, quindi non era originale quello che c'era montato sopra, figurati. Eia. Sì, sicuramente quello, insomma, lo scarico di cui sto parlando io si riferisce forse a qualcosa di originale. Mi dicono che era molto particolare. Vai, comunque. Poi non mi ricordo chi mi aveva spiegato il perché, insomma, della disposizione così, adesso non mi ricordo, forse perché era in ordine anche agli scoppi, a come scoppiavano i cilindri praticamente, all'ordine di scoppio, no? Per cui avevano trovato questa soluzione per lo scarico tutto particolare per la 504. Beh, sicuramente sì, i motivi ci erano stati, e quindi si chiamava compensatore, no, lì era, alla fine il tubo c'era una, era per metà libero e per metà questa diaframma, sì, potremmo chiamarlo diaframma. Però non era un magazzino. Ah, mi ricordo col Marvin, sto parlando dei lontani anni, il Marvin era nella Kawasaki, che era due cilindri. Siccome la lana di vetro si consumava prima di subito, forse per il calore, no? Praticamente dentro il Marvin c'era il silenziatore, quello forato, no? Eccetera, però zoccava lo stesso, no? Ogni tanto beccava la stradale, o i punti, o a Pro Torres, che mi pare fosse lo stesso, avevo trovato la stessa scusa, ho detto, sa, la lana di vetro del silenziatore si è consumata e devo... ho ordinato la cartuccia e sto aspettando che arrivi, e dice va bene, allora appena possibile ripristini il silenziatore, e mi pare che a Protore ci mi è capitato lo stesso e mi ha dato lo stesso identico tipo di risposta. Te immagini, dicevo, ma lì non è quello dell'altra volta, dice ancora arrivare la cartuccia, e quella è la stradale, e quella non perdona. Una volta mi sono trovato con Danilo Sì, non so se tu lo conosci, insomma, comunque ti parlo di un po' di anni fa, sempre quando avevo il Kawasaki, ed era, credo che fosse un sabato, sarà stata l'ora di pranzo, l'una e mezza, insomma, l'una e mezza, e praticamente l'ho raggiunto a casa sua per andare a farci un bagno lì a Platamona, insomma, un bagnetto rinfrescante, insomma, vicino, no? Sono salito, insomma, a recuperare la casa, siamo scesi, sai, via del Trento, tutte cose, e abbiamo deciso di passare dalla WDWD. Arriviamo lì alla testa della palestra bunker, praticamente giriamo e c'era un grosso posto di blocco della stradale, c'erano tre macchine e una coppia di motociclisti. E lì è, lì è scattato, vabbè, stanno filmando subito. Il primo, che era il più alto in campo, praticamente con un accento campidanese, ha iniziato a guardare le moto, si è messo a, insomma, era abbastanza agitato. Io avevo all'epoca proprio avevo deciso di ridurre a livello sonoro le emissioni, e quindi Mauro Masera mi aveva buscato un terminale omologato di un Ducati Super Sport, fatto, saldato alla maniera sua, giusta, fatta sta fenaccia di inox, tutte cose, molto bello da vedersi, anche se chiaramente nella moto qui era attaccato praticamente, con la scritta Ducati, sopra Kawasaki, comunque è riuscito un bel lavoro. Ti puoi immaginare un terminale omologato, chiaramente molto silenzioso, che ti faceva aumentare la coppia in basso, però chiaramente su strada, in allungo praticamente, chiaramente non ti dava, insomma, non ti dava a lungo. Comunque la moto era molto silenziosa, ci fermano, praticamente questo, insomma, non mi ricordo se fosse un capitano, ha iniziato, ma qua abbiamo praticamente la marmitta che non è la sua, il manubrio qua è stato modificato, insomma, ti puoi immaginare, insomma, ha iniziato a trovare, insomma, mille cavilli. Io all'epoca avevo il forsellone di un Suzuki, del Suzuki Katana 1100, era una sorta di scatolata in alluminio, l'avevo fatto sabbiare e l'avevo lucidata a specchio. Poi come comandi a pedale avevo i comandi a pedale completi dell'Aprilia RS250, quindi risultavano molto arretrati. Come manubri avevo i mezzi manubri di un Gilera SP125, l'SP01, non so se te lo ricordi. Comunque, male della favola, il faro, avevo un faro di un Z400, che era più piccolo del mio, il suo originale era un padellone, era enorme quel faro, e quindi il faro del 400 era più piccolo e ci stava bene come dimensioni in mezzo ai due stelle della forcella, no? Era molto bella vista davanti. Poi l'avevo lavata la mattina, praticamente mi ero dedicato a lavarla, quindi praticamente la moto era, cazzo, non era bella, era bellissima, era proprio super pulita, era un bijou. Io andavo da Marcello, quello in via delle, in corso Giomaria Angioi, non so se conosci, vabbè. Mi dava, quando c'avevo un buco, prendevo l'appuntamento, mi dava il secchio con la spugna e tutte cose, poi praticamente gli davo quello che gli spettava, e niente, me l'aveva, comunque morale della favola, a un certo punto si avvicina uno dei sassi della stradale, uno brizzolato che incrociavo spesso al Trisbar. Dai, questi ragazzi ci penso io, non ti preoccupare. Si avvicina, buongiorno, documenti, controlla, accendo la mia moto silenziosissima, clacson, ok, clacson, abbagliante, avevo un devio luce del Carilli, figurati, bellissimo, cromato. L'accensione del motore in avviamento era il pulsante del TT600, quello rosso, a fascetta. Quindi poi avevo il manettino da cross, corsa corta, ma guarda, era. Questo si è fatto il giro delle moto, ha visto le moto, è andato da Danilo sull'Harley, anche l'Harley lo stesso, magnifica, bellissima, stupenda, pulita. E niente, ok ragazzi, qua è tutto a posto, le moto sono in perfettissimo ordine, sono bellissime da vedere, e complimenti da parte di un motociclista, siamo anche curiosi, a parte fare il nostro lavoro, insomma, quando vediamo dei cancelli o dei catarri li fermiamo, però questa volta abbiamo fermato due bellissime moto e niente, ci ha fatto i complimenti e niente, e tanti saluti. Sì, ma questo è il briciolazzo, sì. Kappa, sì, perché poi il tipo si è allontanato, avevo fermato altra gente nel frattempo, insomma, stava risolvendo altre cose e ci ce l'hai. Sì, ma alla fine se funziona tutto, se non è una cosa pericolosa proprio da coso, non dovrebbero fare storie, capito, tipo... Vabbè, adesso non ti so fare un esempio, che se per esempio Easy Rider, no, praticamente quella moto forcella lunga 6 metri, non aveva freno anteriore, usava solo il freno posteriore a tamburo, cioè sarebbe oggi come oggi una trappola, forse lo era anche negli anni 60, boh, non lo so. Ma avete trovato quello intelligente. Ma tu Danilo stai dicendo quello dell'Harley, quello a cui era caduta, gli era rimasta la gamba sotto l'Harley? Sì, sì, Danilo sì. Che c'è lo Springer, il 1340, lo Springer, quello blu con tutta la forcella cromata, con il sistema di sospensione, insomma, tutto particolare. No, guarda, ti stai dicendo la mattina, ma non perché erano le nostre, cioè il poliziotto ci ha fatto i complimenti, cioè ti sto dicendo che erano da vetrina, cioè sia la mia che quella di Daniele erano luccicanti. Vabbè, la mia era tutta satinata, la vernice opaca mimetica, figurati tu, però dico, sai, la vedi quando una moto è tenuta conto, insomma, che non c'è ossido, non c'è niente, tutto perfetto. Poi avevo i tubi in treccia aeronautici nei freni, rivestiti con la gomma trasparente, cazzo, guarda, era tutto lucidato l'alluminio, guarda, quella moto era il massimo del suo splendore all'epoca, cioè come ti ravvisa, gli hanno brillato gli occhi, già mi conosceva chi ero, perché insomma ero sempre in giro, quella moto se la conoscevano tutti, e quindi niente, la conosceva, ci ha fatto i complimenti proprio perché erano oltre che belle esteticamente, erano tenute bene, erano tutte a posto, capito? Eia. Ma era quella che ricordo io, mimetica, con la stella rossa, che mi sapeva di... che io ricordi c'era la stella rossa, sembrava un carro armato sovietico. Allora, erano i colori... quelli erano i colori di un caccia intercettore russo, il Sukhoi 27. Quando sono andato a Farina a farmi verniciare la moto, ho comprato un libro apposta nelle librerie che c'erano sotto i portici a sinistra. Avevo trovato forse c'era ancora qua, Sukhoi 27, aspetta, com'è il sottotitolo? Comunque avevo un sottotitolo di quelli d'effetto, no? Ed era un libro, sarà stato, insomma, non so quante pagine avesse, aveva molte illustrazioni a colori. E praticamente mi era salito il flash e ho visto questa tinta bellissima, queste varianti color cielo mimetico, sono rimasto folgorato, cazzo, ho comprato il libro, sono andato a fare e ho detto, adesso non mi ricordo con chi avevo parlato, mi voglio la moto così. Eia, ecco, su cui ho messo foto, vabbè, qua lo fanno anche, c'è una mimetica molto netta, base grigia, grigia e bianca, che però la tua era più sull'azzurrino, forse, sì, ci sono belle foto comunque qua, poi sai, le foto alle volte non rendono, ce n'è una ma è di un azzurro, no, questa è proprio azzurro... No, questa è cartone animato. Sì, me la ricordo, quella era bella, sì, molto molto, mi ispirava, diciamo, quella. Praticamente la versione, cioè, di Sukhoi, e poi in base a di dove sono destinati hanno colorazioni diverse. Quella che avevo scelto era il celeste, aveva tutta una tonalità di azzurrino chiaro, di celeste e poi anche del bianco. Farina, ok, mi aveva fatto il preventivo, giustamente mi ha detto, guarda, questo è un lavoro fuori dal comune, per cui qua ci vuole un sacco di manodopera, e quindi ti devo fare un prezzo. Mi aveva fatto un prezzo, insomma, il prezzo onesto, giusto, perché non era, uno non era solo una tinta. Erano praticamente, lui ha messo un celestino Panda 750, un celestino Panda 30, che era diverso, un grigio medio e un bianco, praticamente i colori erano quattro. E poi sopra i colori ci ha dato praticamente un opacizzante, praticamente era un opaco, un trasparente opaco, e niente, quindi insomma era è uscito un lavoro impegnativo, però alla fine quella moto ha fatto parlare tutti. Bei tempi, porca miseria. Guarda, forse ho trovato una corrispondenza, ho mandato un messaggio, qualcosa del genere. Io qua vedo un azzurro che non saprei come definire, poi c'è un colore chiaro, poi un grigio, sono uno, due, tre, no, tre colori sono questi, vabbè. Grosso modo, poi sono passati anni, tu non hai foto salvate, scannerizzate, no? Al computer, come ricordo, no? Qualcuna sì, vabbè, diciamo che nonostante, è come il calzolaio che gira con le scarpe rotte, oppure il falegname con i mobili che scricchiano. Sì, comunque qualche foto mi è rimasta, dai. Adesso se la ritrovo magari te la posto. Invece chi era? Io mi ricordo un motoraduno di Sola Russa. Chi era quel ragazzo abbastanza giovane? Vabbè, no, più grande di me comunque, con la barbetta, che aveva un soft tail springer con quella forcella a biscotti, mi pare si chiamasse Attilio, può essere? Sì, ho capito, sì, Attilio, praticamente aveva, quando stava al centro storico, aveva un piccolo magazzino dove si faceva dei lavoretti per conto suo, metteva a posto anche le moto di amici, insomma, sì. Lo conosco, sì, abbiamo fatto svariati giri insieme, sì, è lui. Guarda che io ben poco ci sono andato, mi giusto quando andavo a Pippo, così. Però mi ricordo in quello di Sola Russa, non so l'anno, c'era un caldo bestiale poi nel paese, un caldo bestiale. Poi vabbè, c'era una moto splendida, io una cagata di moto. Era il 250 all'epoca, mamma mia, sfiguravo, sembrava un ciclomotore in confronto alle altre. Aspetta, chi c'era quella volta? All'andata, chi c'era? Come si chiama quell'uomo con la barba un po' lunga, che ha un problema a un occhio, che lavora lavorava all'ufficio tecnico in Viale Mameli? Ok, avanti, abbiamo parlato in due. Ascolto lo scanner, come si chiama, Vassilio Fuzzi, che guarda che c'ha un appartamento, vive con il capo di moto giù a Sargo e San Camillo. Comunque quel lavoro lo sta ancora facendo. Ok, scusate, riprendi Marco, ciao. Ciao Marie, scusami tu perché avevamo ripreso assieme, però ho capito, sì. E qua stiamo parlando di 20-25 anni fa, caspita. Primi anni 90 comunque, primi anni 90, molto primi, e quindi il tempo ne è passato. Invece per Gianni, come si chiama? Lo vedo ogni giorno, non so come si chiama, quell'uomo robusto, barba un po' lunga, che aveva sempre molto d'epoca, piccole, ma non mi viene. Antonello, io vabbè, l'ho conosciuto come Antonello Bulfo, se non sbaglio, poi non mi ricordo il cognome suo. Sì, Antonello, che ha un problema a un occhio, sì. Il giorno non mi ricordo se era la volta di Sola Russa, ma stavamo andando tipo a 70 orari, non era vicino Sola Russa, stavamo andando a 70 orari perché Antonello c'aveva una moto abbastanza smilza, di forma appunto che monocilindrica, e quindi più di tanto non tirava quella, non ci arrivava più, e praticamente ci superavano quelli con le super sportive, ci facevano il vento, poi e poi avevamo preso il caffè più cattivo del mondo, era mi pare la stazione di servizio di... Cosa ci poteva essere sulla strada verso la Basanta, poi se un caffè così cattivo mai l'avevo gustato. Non so che strada avete preso per arrivare lì. Antonello si trafficava, gli piacevano le moto d'epoca, magari avrà avuto qualche Guzzi, qualche vecchio Falcone, insomma, trafficava con moto d'epoca, quindi sicuramente in quel periodo aveva avuto qualche Guzzi, qualche vecchio Mottobi, roba del genere, insomma. E niente, se mi parli di monocilindrico, quindi avrà avuto roba del genere, dai. Eia, eia. Adesso ho perso la russa, non mi ricordo, comunque eravamo su una strada statale, era una grande strada. Adesso ho detto a Basanta, ma io ho sbagliato, era comunque una grande stazione di servizio, autogrill, cosa vuoi, se c'hai, c'hanno da bere, da mangiare. Ma il caffè era di un cattivo, Maria Gasolio, proprio cattivissimo. Allora, sarà il classico distributore di Abbasanta, quello che c'è da una parte e dall'altra, col sottopassaggio. Sì, può darsi, sono passati tanti anni, caspita. E all'epoca purtroppo non ce n'erano GoPro, caspita, da fissare al manubrio, non c'era il gimbal contro le vibrazioni, non c'era nulla, cioè al massimo ti potevi portare la macchina fotografica con la pellicola ancora, poi vabbè, più fortunati avevano qualche 8 mm, qualche VHSC, perché esistevano come quelle 8 mm. Video 8, come ti si chiama? Non voglio confondermi con le cineprese, perché fare 8 mm sono le cineprese vecchie, proprio a pellicola, quelle erano video 8, no? Video 8, poi era uscito anche il Digital 8, che era praticamente, era migliorato e poi era leggermente più definito, dai, come a livello proprio di immagine. Le cassette erano più o meno le stesse, è come il VHS e il Super VHS, cioè ci sono state delle migliorie a livello di definizione, e niente, insomma. Ho dei bellissimi ricordi, era proprio quel periodo lì, è il periodo dove, insomma, mi sono fatto i miei motoraduni, era il periodo, perlomeno a Sassari, che mi ricordi, dove giravano delle belle motorette custom è la definizione più giusta del termine, cioè modificate. Eravamo una bella greffetta, infatti quando uscivamo tutti insieme, dove ci fermavamo c'era subito il campanello di persone che veniva a farsi le fotografie. Vabbè, c'ero io con lo Z, Danilo con lo Springer, poi c'era un mio amico Franco che aveva una BMW, aveva comprato una vecchia BMW, un R55, era bianca, l'ha completamente spogliata, gli ha messo i mesi manubri, i parafanghetti corti, i tromboncini carburatori, le marmite cortissime, una fetta di salame, fatta grigio Mercedes con la scacchiera che attraversava tutta la moto, bellissima, proprio un bel coffee racer, monoposto. Poi c'era, mi ricordo la moto di Cristiano, lui aveva il Virago 535, lo stesso, tutto modificato. Poi c'era la moto della buona anima di Paolo, era docente all'Accademia, era un Honda Nighthawk, anche quella lì, fatta in stile coffee racer. Quando uscivamo, che parcheggiavamo le moto, insomma, avevamo un sacco di ammiratori, dai. Eia, sì, anche perché quando te la customizzi è diversa dalla banale moto commerciale, è molto bella. Poi me ne è passata la gana, soldi non ce n'è, voglia non ce n'è più. Ui, per carità. È così, E quindi dove eravamo rimasti? Abbiamo detto no, vabbè, noi poi il motoraduno non ce lo siamo fatto tutto, poi a un certo ora rientravamo, non riuscivamo a tenere comunque quel ritmo. Comunque se proprio avessi dovuto farlo, tipo motoraduno a più giorni, dormire in tenda, non alberghetti, pensioncine come fanno i fighetti, in tenda, come gli zozzi. Qualcuno ce l'ha fatto in greffa così quando siamo scesi a Riola l'avevo fatto diverse volte, poi avevo fatto Macomera, avevo fatto Lollai, avevo fatto Anela, ne ho fatto diversi, già mi sono divertito, dai. Poi chiaramente là ancora non c'erano i gruppi MC, l'ambiente era ancora bello, ognuno era per conto suo, non c'erano top, non c'erano gilet, capito? E quindi era molto bello per quello, era, cioè, nel senso, personalmente parlando. E sì, poi ci si incontrava, ho conosciuto un sacco di gente. Ho conosciuto un bel di gente. Guarda, sul finire, uno degli ultimi motoradoni, una volta per strada avevo trovato i ragazzi dei Sirbones alla Basanta, fermi, mi ero fermato anch'io per un caffè, ed avevo ancora il Kawasaki mitico. Praticamente uscendo dal bar, andando a recuperarmi la moto, ho trovato questi due americani della base della Maddalena. Uno aveva un Harley 883, giubbottici svanicato, gilet svanicato, non sai, con tutte le varie toppe. E poi l'altro era il classico secchione, no? Con gli occhialetti, aveva questo giubbottino, non mi ricordo di che marca fosse, sembrava un giubbottino da sci, era tutto particolare, con un Suzuki GS550. E questi qua stavano mandando a fanculo la moto, fuck you bike, perché avevamo visto la stella rossa, no? Immaginati tu, cazzo, me ne stavano dicendo in tutti i colori, cazzo. Beh, gli americani hanno lo spettro dei comunisti, vedono tuttora, credo che vedano comunisti ovunque, a ogni angolo di strada. E vabbè, gli americani sono così. Qui c'erano tipi della base, mamma mia. Ironia della sorte, questi praticamente dopo che erano iniziato a venire con la moto, cioè, ho capito che ce l'avevano con la moto, mi sono avvicinato e gli ho detto, no, this is my bike, fuck you your bike, cazzo. Questi praticamente hanno preso un acceso e si sono aggregati ai Sirbones. Nel tragitto di Riola prima si è fermata l'883, gli si è rotto il capo dell'acceleratore e l'hanno messa dentro una tanca, poi si è fermato il Suzuki, anche quello messo dentro una tanca, si erano caricati con loro, praticamente come sono arrivati in paese gli hanno fatto prendere questa sbronza a casa, non riuscivano più a camminare. E chissà se hanno ritrovato le moto pure. Capito? Arrivano a denigrare qua. Poi fa chi vuole, non sanno a seconda di chi trovano, può finire male. Americani, ma sono in terra straniera. Vabbè, io mi sono limitato a rispondergli, gli ho detto due o tre cose, poi ho acceso e me ne sono andato. No, ma mi ha fatto ridere quando si sono fermate le moto, no? Prima una e poi l'altra, cazzo, mi sono occupato di due risate, visto? Mi stavi mandando a far culo la moto e poi, cazzo, si sono fermate tutti e due. E niente, no. Poi da lì piano piano, insomma, la passione, chiamiamola così, per i motoraduni è andata scemando, anche perché poi l'ambiente ha iniziato praticamente a cambiare, a me determinate cose non piacevano più, per cui preferivo uscirmene con gli amici la domenica, ci facevamo uno squillo, magari ci si organizzava durante la settimana e poi uscivamo a farci dei bei giri anche con Gino, insomma, altra gente. È stato divertente, dai, mi sono divertito parecchio. Veglia, ma cos'è quando cominciano a formare gruppi e bande, cominciano a allargarsi troppo, diciamo, a piacere casino, boh, non lo so, eh. No, è proprio la tipologia di approccio alla motocicletta che non mi piace. C'è lì vige una gerarchia simil militare, insomma, con dei ruoli, questo e quello e quell'altro, tizio fa questo, tizio fa caio, cioè già praticamente la vita è piena di cavilli, cazzo, mi devo mettere anche problemi, cazzo, quando devo girare in moto, cioè io devo girare la chiave, accendere e andare, cioè non devo stare a determinati, sotto determinati schemi, per cui no, mi era stato proposto ma non l'ho mai accettato, non mi interessa, non mi interessava, non mi è mai interessato una cosa del genere. Ho preferito sempre essere uno spirito libero, come hanno fatto anche tanti altri, quindi baci abbracci, ok, ci si beve la birra, però insomma la moto ognuno se la vive come meglio crede. E infatti a me uniformarmi ai desideri, ai programmi degli altri, no. Anch'io lo penso così come te. Poi tutti con il gilet uguale, io cosa vogliono fare? Gli Hells Angels, dei poveri vogliono fare. è un meccanismo particolare, con delle regole, ci sono degli statuti, delle norme da seguire, insomma. È molto particolare come cosa, e quindi c'è a chi piace questo tipo di approccio, e giustamente c'è chi ci sono coloro a cui no, non va. Per cui io ero di quell'opinione, sono stato sempre di quell'opinione lì, insomma, non ho figura di, cioè stare sotto delle regole con altri, soprattutto poi con la moto, chiaro, un conto è comportarsi in una certa maniera in strada, un conto è fare gruppo, fare insomma con altri scopi e con altre cose, cioè per carità, non mi è mai piaciuto, è qualcosa che è stato importato, che non fa parte della nostra cultura, non mi è mai piaciuto, non ho, e niente, così. Meglio. Sì, già questa parola che è detto, gerarchia, no? Già non mi suona bene quella. Pensare che all'epoca appendevo da film come Easy Rider, vabbè, quelli erano anzi degli spiriti liberi, infatti hanno fatto la fine che hanno fatto. No, peraltro stanno restaurando il film Easy Rider, lo stanno riproiettando nel cinema, mi piacerebbe quasi vederlo al cinema. Poi mi ricordo, vabbè, certo, film commerciali, tipo Forza d'Urto, non so se ti ricordi, con quello biondo, grosso, e poi Harley Davidson e Marlboro Man, divertentissimo. E per non parlare di Interceptor, che tu avevi visto a casa alcune scene, e ti ricordi, erano tutte Zeta Honda e Zeta 400, cioè tutte Honda e Kawasaki, erano anni 70, quel film con Mel Gibson dell'80, mi pare fosse, o 79. Sì, conosco, diciamo che erano più grosse cilindrate, dai, c'erano 750 Ford, Zeta 900, sì, mi ricordo, poi ho avuto occasione di vederlo diverse volte quel film, insomma, per capire un po' di cose, no, vabbè, già qualche filmetto carino dove c'è, non ne hanno fatto tantissimi come macchine, però diciamo che il cinema non si è sbizzarrito molto sul tema delle motociclette, a parte i soliti americani con il solito bicilindrico, che a me tutti questi cliché che arrivano così spudorati non mi sono mai piaciuti, cioè come qualsiasi fenomeno modaiolo, a partire dalla come si dice, dall'Harley come oggetto da status symbol, ma come poteva essere il CBR 600, come poteva essere il Ducati Monster, capito, come poteva essere la Golf, cioè tutti questi status symbol, cazzo, preconfezionati da chissà chi, capito? Cioè non... infatti non a caso mi sono preso un vecchio Kawasaki, una moto d'epoca, è quella che ho in campagna. A proposito, ho trovato la batteria, adesso in questi giorni la prendo su eBay e vado a cercare di recuperarmela. E niente, quindi insomma, questi fenomeni di massa così non mi sono mai piazzuti. Poi figuriamoci sulle moto, bacari dai. Avanti. Sì, buonasera a tutti, scusate se interrompo, Gianfranco. Albatros, un'informazione, mi dite se vi funziona Rai 1, Rai 2 e Rai 3, perché dalla nostra parte sembra sia partito il ripetitore. Adesso controllo, Gianfra, un istante solo. Ciao Gianfranco, buonasera. Guarda, io personalmente qua in camera non ho praticamente, ho un vecchio decoder che già di suo non mi fa vedere i tre canali Rai, quindi non ti posso aiutare per il momento. Sì, adesso vediamo un po' il ci dice Marco, che lui è credo dovrebbe essere in linea ottica, ricevuto da avanti, però senza segnale su varie antenne. Adesso controllo un attimo quello di cucina, aspetta. Qua vedo tutto, Rai 1, Rai 2, Rai 3. Sì, Marco, potrebbe essere, lo vedi? Sì, l'1, il 2 e il 3. No, ho capito, quindi deve essere il pannello che è rivolto verso di noi che non sta andando. Strano, perché siamo in due settori con due antenne diverse e televisori diversi, però nada de nada. Va bene, quindi è quello puntato verso di noi che sta andando male. Ok, grazie a tutti, buona serata, buon proseguimento. E io Gianfra, ci mancherebbe. Ma perché così critica è la cosa? Tu sei anche in zona Monteoro, no? Beh sì, io ce l'ho tutti in linea ottica, quindi i segnali sono fortissimi, però siccome sono anche molto direttivi, sono antenne a pannello, capace che quel vento che c'è stato, sommato alle temperature, abbia bruciato qualche trasponder, niente di strano. Ah boh, ah beh, quello poi non so come sono disposto, appunto, come sono. Comunque sì, qua tutto funziona. Vai Gianni per Gianfranco. Vabbè, Gianfra, in cucina era tutto spento e niente, non ho controllato, dai. Ma poco fa, quando era accesa, mi è stato detto che Rai 1 si vedeva, quindi posso darti questo referto e basta. Ok, va bene, adesso punto tutto sull'imbara e buonanotte e addio Monteoro. Grazie, buona serata, alle prossime. Già è temporaneo comunque. Già, ti volevo dire, tu sapevi qualcosa che ho letto di un periodo buio dell'Harley Davidson, no? E di questo marchio associato AMF, ma vedevo molto anche che sembravano tipo 125, 250, cioè non erano Harley. Sai qualcosa in più? Sì, forse era quel periodo legato quando praticamente l'Harley si era collegata con la Aermacchi. Aermacchi Harley Davidson, e praticamente sotto quel marchio lì AMF uscivano anche, sono uscite anche delle moto lacrosse che poi sono state marchiate Cagiva comunque. Sì, hanno forme un po' tipo stradale ma leggerine, insomma, ho capito. Avevo anche un libretto che parlava della storia dell'Harley, poi l'ho perso come tante cose ho perso. Poi come l'Harley Davidson, diciamo, ha riguadagnato terreno, si è sganciata da questa MF. Sai le frasi tipiche, l'aquila ritorna a volare libera, in inglese tipo eagle fly free again, mi pare, no? Capito? Quando è rinata e si è staccata questa, perché vedevo questo marchio AMF sulle Harley, bruttissimo. Positivo caparrote, grazie. RKC. È tutto Roger, qui è per te, è tutto Mickey, vedete, è una cosa bella, gatta. Ma sei Luca, sì, o Daniele? Tutto Roger, qui è per te, gatta. No, no, fondo scala, questo è Luca, Luca, Luca. Poi preferivo più l'altra modulazione, quello che ho usato stasera, il classico. Il mio, ehi, vabbè, chi si accontenta gola, no, di zia Ghizzo. Beh, giustamente. Vabbè, quella è fatta apposta. Fatta apposta per i DX là. Ciao, ciao Lu, stiamo parlando di moto, di cose, di ricordi. Adesso tribula la cosa, eh? Come dicevo ancora sera, l'inverno sta arrivando, in senso brutto, no? Non lo so. Già lo esongo, l'inverno sta arrivando, mi sa che è arrivata l'estate, altro che inverno, mamma mia che cazzo, vabbè ma non male che un po' sta ventilando, dai, ma zona, zona di città 25, lì tira bene l'aria, però qua al monte, qui anche la notte ti dita a fare, si copre con lenzuolo, altrimenti prendi freddo, vabbè. Dai, ce lo godiamo quest'estate, no? Comunque stavo mi sono dimenticato di dire, io mi sa che l'ho visto un paio di volte a Gianni in moto, può essere Gianni. Beh boh, ma sicuramente è tempo fa, non adesso. Tempo fa, certo. Chissà quante volte mi avrei visto, ero sempre in giro, avevo solo la moto, quindi pioggia, vento, sole, ero sempre in giro in moto. Ma moto grossa, mi? Sì, sì, tre moto avuto, il Kawasaki, l'R6 600, dal fine 99 sino al maggio 2004, e poi al maggio 2004 ho versato l'R6 e ho comprato il ZRX 1200. Ma lo conosci tu, quello che c'è il T-Max? Un T-Max di cognome, aspetta, c'è un cognome strano. Che grande di età, sta lì al corso molte volte, vicino all'edicola. Ma il corso V cosa stai dicendo? Corso che teneva due all'inizio. Boh, non ho idea di chi possa essere, vabbè, diciamo che avevo un sacco di gente che lo conosce in Oghi, insomma già lo sai come sono i tempi odierni, quindi a parte alcuni, il resto non conosco, dai. Il cognome fa Aristarco. No, non ce l'ho presente lui, non lo so, non conosco gente che abbia questo cognome. Iaia, allora Marco, non ti piace il tuo baracchino, no? Beh, sono al minimo, va, perché sono all'aumento, vedi, innesca, devo abbassare per l'ascolta. Aspetta, vediamo, un attimo, ecco, sono staccato. Adesso sono di amplificazione sulla manetta, com'è, brutta? No, brutta no, diciamo, toni più acuti, così, e poi deve piacere al proprietario, mica agli altri, deve piacere al proprietario della radio, no? Se no, che scopo c'è, poi a chi non piace si tappa le orecchie. No, vabbè, allora, vabbè, infatti sono al minimo, sono ore 10, e quindi li lasciamo così. Da questo passaggio, volume macchina a mezzogiorno, così, c'è differenza in radio, aumenta o no? Caspita, si aumenta. Ok, no. Vabbè, lo lascio così, e così non succede niente. Ecco. Ecco qua, ecco, è zero, così non dà fastidio. Ho notato che ho chiesto a varie persone, anche in propagazione, mi ha detto che va bene, a molti non piace, cosa vuol dire? Non c'è problema, la lascio così, che infatti come tu, che non piace, si dà parecchi. Eia, non a tutti può piacere una timbrica, un eco, capito? Infatti, per esempio, esempio, a molti non piace quando il doppio rumo entra con l'eco, no? E dicono sempre abbassa, abbassa. Vabbè, quando è forte, quando un po' sovrasta la parola, posso capire, sì, allora sì. Ehi, a proposito, non è entrato oggi, no? Non è entrato, dai. Io tornando dal mare avevo la radio e mi sono fatto due chiacchiere. C'era anche Graziano. Oh, tu non ci credi, ma mi sto scongelando. Avanti gli anni. Ci stai? Scongelando. Congelando. Scongelando, scongelando, non congelando, scongelando. Ah, perché eri congelato pure, certo te. Anche io mi vorrei congelare, ma sono in perizomami. In casa, lo sai, sono con la foglia di fico praticamente. Per coprire le pudenda. Pudende o pudenda, già, come si dice? Ah boh, i gioielli di famiglia, dai. No, allora, scongelando, per farti capire che sto sudando, amico, no? Cosa si scongela, sai, sbrodola, no? E così sono io, mi sto scongelando. Eia, vabbè, io sbrodolo anche in altre occasioni, già. È vero, capito, Gianni, bubu, bucaccioni. Maladuccato, buco, vedi da pomporio buco, mi sa che sei brudum, buco. Oia. Adesso non ci dormo perché no, credo che sia pudenda, pudenda, latino. Pudende lo si dice, lo diciamo in casa così, storpiandolo. Non credo che nessuno lo sappia cosa vuol dire, pudende, giù ieri in famiglia, mi Gianni già capito. Vabbè, Gianni, te l'ho detto, Gianni for president. No già, quando ti arrivo a te da qua? Guarda un po'. Aspetta, negli occhiali. Beh, se c'è la differenza da qua a giù, sono curioso, va. Perché io ieri ho sentito la mia 25 e arrivo a 9, però è una bella radio forte. Guarda, qua si, c'è il laghetto che è molto vicino al più 30, cioè fisicamente, poi ti ripeto, questo smitter è molto, molto sulle sue, poi Marco magari saprà darti conferma di questo. Comunque il segnale, il laghetto è molto vicino al più 30. Come sei tu, dai, sul più del più 30, Marco, poco poco più su. Marco, poco poco più su, va bene, dai. Allora già c'è la differenza da giù a qua, perché mi sa poco fa mi ha dato un 9. Andava, dai, già andava, domani me la, se il tempo è più fresco me la vulcanizzo bene, mi porto la pistola a colla calda, a caldo, così mi che la passo un po' lì dove ci sono i bulloni, la bulloneria, e poi sotto, e già va bene la colla calda, penso, no Marco? Beh, se resiste al sole. Ma Luca, che antenna è? Canale pesca di polo, cos'è il boomerang? No, allora è... sono stanco. Allora è un radiale di una Mantova, quanto ho capito, ma costruito Luca Flipper. Lui gli ha messo un PL, poi gli ha costruito questa specie di ammirino, e gli ha fatto il buco e gli ha messo il PL femmina, come quello c'è nel baracchino, diciamo, dai. La vitti lì e poi su gli ha messo un pezzo di filo per accordarla, è un metro e mezzo sarà di lunghezza. Aspetta, ti mando la foto, ce l'ho. Ehi, manda, che sono curioso appunto. Comunque sì, sei 9 più 30 qua, sì, lì eri 9 modulato, però caspita, la pulizia di quella modulazione dell'apparato storico è eccezionale. Bene, molto bene. Oh, sto notando che sono le 9:15, io quasi quasi volevo guardare qualcosa in TV. Però non so se c'è roba degna di essere vista o mi guardo roba mia alla fine. Mamma mia. Io adesso per passare il tempo qualche occhio, ogni tanto l'occhio ce lo butto, ma ti ripeto, non riesco più a guardarla come una volta, cazzo, cioè. E quindi sto sempre lì a controllare altri dettagli, altre cose, insomma, altre sfumature che prima magari non riuscivo a vedere, adesso vado a cercare quelle, capito? Quindi sono adesso quello che è più critico, vado a cercare tutta un'altra serie di cose. Oh Marco, l'hai vista? Sì, praticamente fa massa anche su quella trave in acciaio, no? Dove è fissata, no? A voglia. Un stiletto, 1,5 metri. Mi si chiama Daniele, avanti Daniele. Brava, buonasera a tutti. Siete solo un bip strano, non è il mio. Non è un rientro di bip mio. Ehi, ciao Daniele, ben entrato. Dunque, visto, io ci stavo arrabbiato, cioè, da quel DL. Io pensavo che l'antenna, magari non è l'antenna, potrebbe essere il cavo, magari l'ho fatto il PL male, niente, non so, per la stazione da fondo scala. Poi quando ho attaccato il mio, tutto a fondo scala, però prima da 3 almeno, con quello, col mobile, come dice, col mio a fondo scala. Poi quando ho attaccato questa qua, è stata giù di 1,5, alla grande, e poi te la lascio così. Ripeto, tutto il lavoro che devo fare è vulcanizzarmi il PL, e poi a posto, dai, avanti Gianni. Bello Luca, E beh, Tino. Buonasera, non so chi c'è, ho appena sentito a te. Allora, c'è Gianni, un'offerta, Marco, che mi sa che se ne andende, Daniele che è appena entrato, avanti, riprenditi. Buonasera a tutti, dai. Cos'hai fatto all'antenna? No, vabbè, sono a casa di mamma adesso, no, l'altra, lì, dalla 25, ma l'ha costruita Luca, ed è una bombetta, va bene, va, di lusso. Mi ho fatto tutti i complimenti, esco molto bene. Meno male, Guarda, non Daniele, è bella, proprio, vabbè, piccolina. Io sono sicuro, se andato su spara bene con l'antenna. Avanti Daniele. Ciao Tino, ben entrato, salutori. Sì, Luca Daniele, sta arrivando quasi 9.25 qua. No, sono a casa della mamma adesso, Daniele. Intendi Marco la radio di Daniele? Un bel pompa, Eia, sono simili alla tua? È simile alla tua? Sì, vabbè, come modifiche si dà, diciamo, più o meno. Non so se lui c'ha doppio modulatore, Eia, ciao Tino, avevamo parlato assieme a Luca prima. Eia. Bene, quella che mi piaceva l'hai vista, sì, quella bianca, azzurra, che mi hai chiesto che radio è. Quello è un 48, cambiato d'aspetto, poi sicuramente c'ha roba sotto. Non voglio sapere nemmeno quanto l'hanno pagato, minimo 470 euro. Allora, il discorso del 48 a casa non te ne fai niente, in macchina va bene, in camion, ma a casa ti secondo dove sei a chiamare qualcuno forte, quindi un medico e già prendono questi qua colpi, questi iPhone 4.5, ma non che si è modificato magari con un filtro. Avanti, riprenditino. Io non ci sono sentato. Vabbè, niente, avanti Gianni. Eia, ciao Tino, ben sentito, e ciao anche Daniele, buonasera, ben sentito, ben ascoltato anche a te. Eravamo con Marco, stavamo facendo quattro chiacchiere, poi è entrato Luca, e niente, siamo ancora in occhi, dai. Però anche Gianni ha una radio fortissima, cavolo, cosa stai usando già? Guarda, sto usando la radio, una Super Jopix 2000, che Marco ti saprà illustrare molto meglio di me, e poi come microfono c'ho un microfono ZG M95 col preamplificato, col volume qua sul microfono, nient'altro, e poi basta. Ciao Gianni, ciao, scusate, sono dovuto allontanare. Ti stavo dicendo, Luca, cosa stai usando? Il iPhone 2? Il iPhone 2, sì. La modulazione mi piaceva più l'altra, Sì, ma tu non sei il primo a dirlo, vabbè, questo è un microfono normale, poi c'ha la modifica, come sai, no? L'Echo Cold. Niente, vabbè, questa l'ho lasciata qua, l'altra, se ti fai sentire magari non di questa sera, magari verso le 7, così, se ci sei, magari mi dai un controllo per vedere come arrivo, però tutti mi hanno detto che tipo a ottava, Marino mi ha detto che segnale non ne ho, ma c'ho la radio un bel forte. Vabbè, qua arriverai tranquillamente, almeno credo. Va bene, salutone a tutti, Marco riprendi. Ehi a te. E tu stai andando al mare? O sei sempre cittadino? Io. Eia. Allora, Luca da Orsatti, io sto facendo un lavoro lì vicino a casa della 25 e sono dalla mattina, diciamo dalle 8 sino alle 5 che prendo il sole sopra il ponte e secondo te vado al mare. Aspetta, era un pettino, sì. Dove ti ho salutato? Ma tu sto salendo a piedi, ma dove sta lavorando un cantiere? Appena più giù, sì, avevo chiamato anche un'altra persona per essere interessato, ma non ha risposto al telefono, quindi ormai è, ha perso il treno. Ah, capo, non ho capito, ma che meglio così, da, caldo ci ne ha fatto un bel. Noi eravamo alla marina, come ti ho detto prima stasera Marco, ma si stava bene, bene. Poi l'acqua all'inizio era freschetta, poi una volta che ti abitui stava molto bene. Uscivi dall'acqua, poi ti asciugavi e c'era un po' di caldo. Poi alla fine abbiamo deciso, anzi, abbiamo fatto tipo merenda, una birretta, un paninozzo, sai, delle patatine. Ci siamo asciugati e ce ne siamo andati. Eia, sì, infatti l'importante è mangiare quando pensi già di non entrare più in acqua, se no non puoi più toccare acqua. Guarda Marco, sono arrivato a casa, già sul tardi, però c'era ancora a casa. Sono entrato in piscina, si è buttata la porta asciutta la piscina. Tu l'hai bevuta la, perlomeno, io per me la prima volta, la Tre Lupoli non filtrata. Buona, buona, buona. Ma l'hai bevuta, sì? Sì, sì, l'ho bevuta. Cazzo, buona rezza, buona, buona, sì. Poi non ti fa pisciare come la Licnusa. Sì, adesso mi le ho prese in offerta lì alla Conad, domani ci passo, me ne compro altre 5 bottiglie. Tanto già la beviamo così, ne porto due al mare, due a due, tanto siamo io lì e basta. Poi se c'è qualcuno in più la porto, ma siamo soli, già basta, noi abbassa e avanza. Va bene, dai, sono entrato giusto a salutare perché sono in fase di preparazione cena, quindi mi devo dileguare. Ciao Tino, no, credo fossi in ferie, roba del genere, no, non sapevo. Certo, lavorare con questo caldo deve essere una cosa massacrante. Mamma mia, ma come si fa? Però, dici, come si fa? Per costrizione si fa. Guarda, credimi, questi giorni sono infernali, Qui sono all'ultimo piano, quindi batte il sole la mattina, sino alle 3:30-4. Vabbè. Buon fatto, a lavorarci però, purtroppo lo deve fare. Eia, magari starei leggero in maglietta, ma pensa a quelli dell'ANAS, quelli che tagliano l'erba vicino alle strade, che devono tenersi tutta quella roba fluorescente addosso, quelle giacche fluo, mamma mia, è una tortura in questi giorni. Vabbè, poi io ne soffro particolarmente, sono guasto io, è un problema mio quello, capito? Lo soffro parecchio il caldo. Cazzo, ti chiamo Paolo Trudioli. Ananas. Cos'è? Come chiama Paolo? Ma ci chiama di Anas. Ananas. Scena, ragazzi. Va bene, dai. Adesso mi devo organizzare. Stavo chiamando un amico tuo che non mi ha risposto al telefono. Purtroppo, niente, stavo cercando gente. Lo volevo proporre, però non mi riesco a capire, ma la gente sarà più fatto. Ma assicurato? Allora, assicurato per un bel po' di tempo anche. Ma quella roba là allora l'ha bloccata? Allora. Ah, che se no, tipo le cose, i braccialetti. No, bloccata. Vabbè, adesso per 2 anni siamo a posto, poi vediamo. Vediamo se ci trovi. Ma cosa state facendo? Palazzi, cos'è, casa, lo sai? Sì, alle case marrone c'è il ponte, vedi, stiamo facendo il ripristino dei parapetti e poi tutte le ringhiere, sverniciarle, levigarle, metterli il petto nuovo sotto perché sotto è marcio, quindi vuole smurato, è rimesso, soldato e tutto quanto, e poi imbiancato. Ce n'è. E poi vabbè, altri lavori anche fuori, come dire, Alghero, Tissi, Colongiano, quelle parti lì. Sì, se devi passare a casa, no, ti affutti il tin, quindi meglio, ovvio cambi. Se trovi il lavoro tuo, quello che fai tu, vabbè, dai, io mi assento 5 minuti, vado a fare l'insulina a mamma. Va bene, io invece vado a cucinarmi a mezzo alla costa, dai. Il mammo però. Ciao ti, allora, se stai andando, dai. Ci sentiamo magari se rientri domani sera, tipo verso le 7, così, 7 e mezza, forse sono a casa, dai, perché devo andare a fare la spesa. Qui ti faccio sentire il birricchio da giù, dai. Vediamo, va. Domani domani è giovedì, sì, ci dovrei essere, perché venerdì abbiamo la festa lì al campo della Croce, la chiusura, quindi ci uscirà qualche birretta, quindi farò parte. Va bene, dai, lanciamo ormai che Gianni, riprendi che sei in parcheggio. Ehi, vabbè. Visto che ti stai spostando, vabbè, buona carica, buon tutto e ci sentiamo nel prossimo, dai. Ciao. In questi giorni sono sarete, mi sono tornato a casa un po' troppo stanco, quindi non ho neanche voglia di accendere la radio, sono partecipato a questo. Tutto comprensibilissimo. C'è Daniele anche in parcheggio, Daniele. Eccomi, ci sono, ciao Tino, buon tutto, dai, ci ascoltiamo le prossime se coincide, riprendi Marco. Ehi, ciao Tino, buon riposo, buona cena, buon tutto, dai, sentiamo. Ciao a tutti. Quindi già, adesso, boh, senti, TV c'è qualcosa di degno, se no mi guarderò qualche film mio, qualche telefilm, boh, non so ma cosa guardare oggi. Forse ti conviene sfruttare la tua videoteca. Ho perso un bel di film, DVD persi, spariti, scomparsi nel nulla, spariti, persi in casa, no, non è roba prestata, sicuramente sono finiti dietro ai mobili e poi bisogna smontare mezza camera. Va bene, se no già c'è tutta quella serie di telefilm soliti, Trono di Spade, Killing Eve, Shameless, cosa c'è, Dottor House, mi sto riguardando, cos'altro di stuzzicante, I 100, quel telefilm futuristico, una giabidura. Oh, io sono, te l'ho detto poco fa, in che condizioni sono messo, non riesco più a essere così distaccato quando guardo le cose e niente, e ogni tanto cerco di guardare qualcosa che ho già magari che ho rivisto e magari ho il piacere di rivedere. Daniele, e quindi anche tu lontano dalla radio? Io sono lo stesso, impegni di lavoro, mi sono dovuto allontanare, dai. Allora che rientro io non c'è mai nessuno in radio, quindi ciccia, lì due passaggi al 45 ogni tanto, così due svertine e via. Ehi, bene, dai, vabbè, diciamo che ognuno ha i propri impegni, quindi giustamente deve seguire determinate procedure e niente, quindi andava così, dai. Mi stasera ho sentito Marco in barra mobile e niente, e ci siamo agganciati, dai, in frequenza. Ciao a Rogero, l'ho sentito, però non ho avuto tempo perché poi sono dovuto uscire a fare commissioni e non sono potuto entrare. E poi un rischio con quel portatile, perché praticamente devo tenere questo mattone con le mani, no? Mentre un microfono palmare più discreto, no? Manco se ne fai accorgere. E lì, caspita, se per caso mi dovesse vedere, sai, vicino urbani, stradale, col portatile in mano, mamma mia. D'altronde il più comodo, c'ha la valigetta, apro, attacco il cavetto, attacco l'antenna piccolina, è fatta la stazione, invece di mettere il solito baracchino normale, l'antenna lunga, poi da togliere, devo levare quelle viti a galletto dal cruscotto lì, un macello, quello è molto comodo, però l'antenna è un po' banale. Per esempio, il produttore se non ci arriva, no, assolutamente, comincia a prendere bene a Sassari d'ottava in voi, perché è come se fosse un antennino di portatile, amico Daniele. Caparrogero, io non so dove eri, poi ti ho sentito, stai arrivando Santiago 3, poi ti ho perso. Io sono partito dalla rotonda praticamente. Cava. No, stavi arrivando, insomma, anche la radio era buona, dai. Stavo usando un portatile degli anni 80, un americano, no? Sai, quel kit, all'epoca c'erano quei kit in valigetta d'emergenza, no? Ti davano presa accendisigari, cavetto, l'antenna da mettere in fretta sulla cappotta. Qui c'è un tastone frontale, non è il tasto, il PTT di lato, è frontale, c'è un tastone largo frontale, è una bella modulazione quell'apparato. Cava, non si può mettere un altro microfono esterno? No, in quello no, quello c'è solo alimentazione e antenna esterna, no, quello è della vecchia guardia. Ma lo sai che mi stava piacendo un apparato da lasciare fisso in macchina, no? Che è, praticamente non lo vedi, solo che ho idea che la modulazione sia una mezza puttanata. A me il CRT mic praticamente c'hai una piccola, è tutto il microfono, display, comandi, tutto il microfono, no? Poi c'è un cavetto spiralato che va alla circuiteria, no? Che è una scatolina nera, una scatolina rettangolare nera dove non c'è nulla. Praticamente stacchi il microfono, lasci fisso quello, è come staccare il frontalino dell'autoradio, solo che di modulazione non escono bene come questo portatile che ho usato stasera, usciranno, sai, come li ho omologati, tutti i cupi, i bassi. Cava. Già ce l'ho presente, mi appasso sulla pubblicità di Facebook, cos'è? Da Swiss, dov'è questa cosa? E ovunque lo trovi, si chiama CRT Mic, è come Lafayette Venus, però più bello l'aspetto, più accattivante, c'è tutto sul display, lo smitter, i canali o la frequenza, tutte le iconcine, i comandi volume, comandi squelcia, MFM, tutto sul mic c'ha. Solo che se ti si rompe un filo del cavetto spiralato, guai, ci butti tutto, Il cacchio, non si può più grippare. Lì è un po' impegnativo perché ci avrà un'infinità di cavi dentro lì, infatti alla fine è sempre meglio un baracchino normale, purché esca bene il radio, perché è inutile avere un qualsiasi veicolare che ti dicono se è basso il radio, se è cupo, se è basso se è cupo, ma come mi è capitato con certi baracchini economici troppo, e allora meglio il 3009 oppure roba, purché esca bene, mi. Cava. Sì, ti ho ragione. Basta che esca bene il radio, tutto il resto è noia. Riprendi Gianni. Ehi. Mi sono distratto un attimo, stavo leggendo una cosa qua. Allora, PC. E niente, va. Mi sa che per oggi può bastare così. Mi sa che adesso spegniamo la baracca, quindi niente, mi sa che io, visto che ho il microfono a disposizione, mi sa che vi saluto, ragazzi, e niente, dai, mi sgancio e ci sarai, e ci sentiamo in Prussia, e poi magari con Marco magari ti mando qualche messaggio, cioè ci sentiamo via WhatsApp, ok? Eia, materiale politico, roba interessante, oggi abbiamo parlato di tutto, di moto, di videocamere, di mare, di non so cos'altro. Luca, ci sei ancora? Eia, stavo riparando un tassino di una tastiera, sono qua, però di chi non hai parlato? Ti volevo dire, Lu, l'apparecchio che ha Gianni, il Super Geopix 2000, praticamente è come il Pluto, no? È come un 3009 col frequenzimetro, però anziché nero è cromato, c'ha il frontale color perla e manopole cromate. Se capì, le cifre sono verdi, il frequenzimetro, l'indicatore canale ha cifre verdi, non ambra. Quanti canili c'ha? Ma i soliti 2,40, pochi, pochi, robezza. Ah, già, ti bastano 2,40 per banda. Che poi sono inutili tu, cioè fino al 45, fino alla tripla 5 può andare bene, ma poi sono inutili. Poi dai 28 è banda amatoriale, quindi niente, sotto, sul canale di sotto non nessuno, quindi siamo sempre lì, dai. Signori, buonanotte, vado via anch'io, qualcosa da guardare me la cerco, dai. Ciao Daniele, ciao Luca, ciao Gianni, tutti quelli all'ascolto, un bacione con la lingua e ci sentiamo, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Marconi, alle plus per essere coincide, dai. A te il microfono Gianni. Ehi, sì, come ho già detto prima, stacco anch'io, dai. Salutoni ragazzi, dai. Grazie QSO e ci aggiorniamo appena sarà possibile, ok? Buona serata a tutti e dai, alle prossime, ok? Ciao ciao! Ciao ciao Gianni! E quindi Lugaria, quella roba l'ho sistemata, Ciao Gianni, ciao Marco, dai! Vi siete fatti la vostra chiacchierata lunga! Andava a domani se Dio vuole. Sì, ma tu cosa hai fatto? Quello che ti ho detto io? L'ho sostituito e adesso funziona tutta la normalità. Scusi Daniele, ma tanto si sa, mi stavi dicendo che ha arrugginito, è normale. Poi con le spugne nel baracchino, mamma mia. Qualcosa c'era. E poi pure il palo ascolta non stava andando come doveva andare. Capito. Va bene, già c'era anni. La sua vita se l'ha fatta. Certo, era ora. Quando la cosa è vecchia bisogna cambiarla, Daniele, altrimenti la cosa è tribula, capito? Gap. Senta le cose sotto, gap. Ma questo è sempre lo stesso microfono, Lucarie. Sempre quello là, lo Zodiac, sì. Cava Rogero. Ulla. Già va bene. Ma che non va bene? Sì, già va bene, Ugarie. Va bene. E si sente il microfono semi normale, dai, poca amplificazione, già va bene. In effetti sì, dai. In effetti già andava bene. Si è perso la mollettina, non si cacchio forza, babbo. Oh, va bene, dai, Lu. Adesso chiudo anch'io. Che domani nuovo giro, nuova corsa, se tutto va bene domani sera due chiacchiere ce le facciamo, dai. Ciao Daniele, dai. Mi faccio questo tastino di questa tastiera e poi mi si cocco. A domani, ciao, buonanotte, ciao. Ciao Arrogio, dai, ciao Lugarie, a domani. Va bene, ciao Lu. Ciao. Il messaggio Luca, ciao a tutti. Il massaggio mi devi fare? Sì, c'hai un massaggio, ciao, ci sentiamo. Il messaggio l'ho già visto. Andare, bello. Ehi, era il mio, io non credo che l'hai già visto. Esce non bene di più. Ehi, ciao a tutti, ciao, di nuovo, qualità esecutivo, ciao. Ciao caro.